Via, lezione numero 6, Maria Montessori e Company. Allora, io pensavo che avremmo parlato solo di Maria Montessori, invece in realtà le cose poi si sono venute arricchendo come al solito, perché preparando la lezione saltano fuori poi informazioni, novità. Tra l'altro, grazie a mia madre, devo dire, perché a me non sarebbe mai venuto in mente, però sono stata adesso una settimana da lei e di recente, e ho visto alla televisione, io non guardo mai la TV perché non ce l'ho, ma mia madre ce l'ha, un film su I ragazzi dello Zecchino d'Oro. E ho scoperto la figura di Maria Leventre, la direttrice del coro dell'Antoniano, che anche lei, secondo me, è stata una grande donna, perché anche lei ha preso bambini disadattati, bambini che non avevano un futuro, bambini, e li ha messi a cantare. E con la musica è riuscita ad unire le classi sociali, bambini che appartenevano a diverse classi sociali, bambini che erano destinati a diventare teppisti perché non avevano genitori che li seguivano. Quindi anche lei, secondo me, lei ha. Io non ho approfondito la figura di Maria Leventre, Maria Rachele Leventre, sarebbe, se qualcuno ha voglia di farlo, l'ascoltiamo la prossima volta. Però lei, secondo me, ha trasferito nella musica il metodo della Montessori, perché ha fatto esattamente quello che faceva Maria Montessori, ma l'ha fatto facendo cantare i bambini, anziché facendogli fare attività didattiche come faceva Maria. Qual è il suo nome? Maria Rachele Leventre. Beh, quello era il piccolo coro Maria Rachele dell'Antonia. Sì, però detta Marielle, è conosciuta come Marielle Ventre. Secondo me su internet c'è un bel po' di roba su di lei. Questo filmettino TV così che io non guardo mai, probabilmente all'acqua di rose, perché sappiamo bene che la Rai non approfondisce mai certi argomenti, ma secondo me lei a suo modo è stata una grande. E comunque adesso il piccolo coro dell'Antoniano è diventato un'istituzione internazionale. Per cui un po', cioè proprio il corrispondente di Maria Montessori, ma in versione musica. Quindi direi che in Italia abbiamo avuto delle grandi donne, anche se Non nessuno molto. ce ne parla. Cioè donne che hanno saputo capire l'importanza dell'infanzia e hanno saputo dare aiuto a questi bambini che avrebbero avuto invece altrimenti un destino veramente triste. Ecco, quello che io ho notato è che c'è una sistematica opera di diminuzione e di banalizzazione dei lavori delle donne, delle grandi donne. Questa non è una novità, lo sappiamo, lo diciamo tutte le volte, però nel caso di Montessori e Mistral questo è evidentissimo. Che succede? Ah, grazie. Nel senso che Maria Montessori è diventata quella dei banchi piccolini e delle sedie Sì, piccoline, già no? questa non capisco questa cosa. Gabriella Mistral è diventata quella delle canzoncine e delle poesiole per bambini, sono state ben più di questo. E quello che succede in realtà è che queste grandi donne, adesso vediamo che nel giro di 60 anni ne sono nate 5 di donne che hanno davvero cambiato l'idea di educazione, l'idea di bambino che avevamo. E tutte queste donne arrivano a fare quello che hanno fatto perché hanno un cammino spirituale. Perché seguono ciascuna un cammino spirituale, che sia orientale, che sia occidentale, che sia. Non ha importanza, ma è stata proprio questa la loro ricerca spirituale che le ha rese quelle che sono state. Questa parte qui viene sempre saltata anche nelle biografie ufficiali, cioè per poter trovare informazioni sulla parte mistica della Montessori bisogna leggere o ascoltare la Giovetti, che è anche lei una che ha un suo cammino spirituale. Per conoscere la parte esoterica, per esempio, di Johanna Spyri o di Sabina Spierai, bisogna sempre ascoltare cose alternative, o di Pamela Traverso, parliamo di Pamela Traverso, l'autrice di Mary Poppins. Io da quando ho iniziato a leggere per la scuola delle donne sto davvero scoprendo un mondo, cioè ha scritto dei libri di sciamanismo per bambini, la Traverso, ed è stata trasformata in quella stupida, per carità, niente da togliere al filmettino di Disney, ma è un filmettino davvero rispetto al contenuto profondissimo, esoterico, sciamanico che c'è nei libri originali, dove Mary Poppins è realmente una sciamana, è la corrispondente femminile di Don Juan di Castaneda. Tutta questa parte qui viene ignorata, le donne in generale vengono ignorate, quel poco che viene detto di loro, questa parte non la prende in considerazione perché è considerata probabilmente non politicamente scorretta, non se ne vuole dare, non si vuole dare enfasi ed è un gran peccato. Ecco, Mary Poppins è diventata una tata. La canzone lì delle suffragette è stata un'aggiunta, non so se avete presente, è stato abbastanza contestato il mio articolo che ho pubblicato su Facebook sulla questione, non so se l'avete visto, ho scritto un articolo nel quale spiegavo che nel primo film di Mary Poppins, quello degli anni 60, tutta questa figura che è stata inserita della mamma suffragetta, già suffragetta di sua è una parola diminutiva, dovrebbe essere suffragista, come si dice in spagnolo per esempio. Questa non esiste nella versione originale di Mary Poppins, lei non è bella, ha allineamenti brutti, è una donna estremamente dura, spaventosa, cioè è dura proprio, non canta, non balla, e non c'è nessun accenno alla questione del suffragismo, delle suffragiste. Quindi quella è stata aggiunta a Bella Costa, secondo me, per screditarla, perché la figura della signora Banks, della mamma, nel primo film di Mary Poppins è quella di una perfetta idiota, cioè non dà l'idea di una donna profonda, quindi associando questa mamma così oca, inconsistente, alla figura delle suffragiste, no? Che cantano suffragettura, questa canzoncina che non ha né capo né coda, e subito dopo lei, dopo aver cantato, siamo andati a gettare i pomodori marci e le uova marce al primo ministro, cioè chiunque di voi sappia che cosa è stata realmente la lotta delle suffragiste sa che le pigliavano, andavano in galera, venivano ammazzate, cioè non è stata questa cosa tramandata dal primo film di Disney, è veramente un voler sminuire completamente il lavoro massacrante che hanno fatto queste donne perché noi potessimo votare, no? E non solo votare, perché noi potessimo avere la proprietà delle nostre case, dei nostri figli. E subito dopo, in effetti, se voi avete presente il primo film di Disney, dopo questa comunque una donna che dopo aver cantato la canzoncina delle suffragiste dice: "No, fai tu caro, io avrei fatto un gran pasticcio caro", cioè lei interpreta proprio la classica moglie ebete, patriarcale, la figura patriarcale di moglie, ridicolizza la figura delle suffragette, e questo è un sistema che Hollywood ha usato sempre, da sempre, e continuerà ad usare, perché è molto più facile screditare anziché fare la lotta diretta. Quando tu lotti contro qualcuno, gli dai comunque un valore, no? Vale la pena di lottare contro una cosa perché ha un valore. Se tu invece lo screditi, così, cioè lo diminuisci, lo ridicolizzi, lo banalizzi, come si fa attraverso i film hollywoodiani, come ha fatto con Mary Poppins, fa con tantissime altre cose, anche si parlava prima con lei anche di Sabine Spirin, nei film che hanno fatto hanno dato enfasi alla sua parte schizzata, alla sua parte fuori di testa, pochissima enfasi su tutto quello che lei in realtà ha portato alla neuropsichiatria infantile. Quindi in realtà il film Hollywood si focalizza sempre sulla parte che tende a diminuire i personaggi e fa un'operazione politica, fa un'operazione di ridimensionamento di queste figure di donne. Quindi, ecco, nell'arco di 60 anni sono nate e hanno operato le 5 più grandi educatrici della storia contemporanea, da Heidi a Mary Poppins. Potremmo chiamare questa nostra lezione da Heidi a Mary Poppins. Grazie alle loro conoscenze spirituali credono nella reincarnazione e sanno quindi che i bambini non sono dei cuccioli, tra virgolette, sono anime antiche incarnate in piccoli corpi. Quindi non devono essere trattati come degli stupidi, non bisogna parlare di loro come se non ci fossero. Ecco, non sono animaletti incoscienti, dice proprio la Montessori, usa questa espressione, come si credeva prima, no? Ecco, in Mary Poppins, nel secondo Mary Poppins, quello che ho finito di leggere oggi, si parla della nascita, c'è un capitolo che parla della nascita, perché nasce la quinta bambina della famiglia Banks, nei film Disney sono solo due, mentre nei romanzi originali sono cinque bambini Banks. Questa bambina appena nata ricorda da dove viene e dice: io sono una creatura dell'acqua, della terra, dell'aria, del fuoco, sono figlia delle montagne, delle pietre, delle foreste. Cioè è un discorso sciamanico totalmente, in cui ci sono i quattro elementi, le quattro direzioni, e c'è poi il tordo, quell'uccello che è alla finestra, che nel primo film Disney fa la canzoncina con lei. In realtà nella versione originale della Travers questo tordo è un totem, è un animale sciamanico che rappresenta la saggezza del mondo dell'aria, degli uccelli, perché questo uccello vola sulla culla della neonata e le chiede: quindi tu ricordi ancora da dove sei venuta? E lei gli risponde tutto questo, che ricorda perfettamente: vengo dall'acqua, vengo dalle nuvole. E poi dice: peccato che tra una settimana te ne dimenticherai. E la bambina, la neonata, che ha poche settimane, si arrabbia tantissimo e dice: no, che io non dimenticherò, perché mi tratti come una stupida? E il tordo dice: purtroppo te ne dimenticherai, perché tutti gli umani se ne dimenticano e diventano stupidi, tranne lei, e indica Mary Poppins, no? Quindi questa consapevolezza di da dove proveniamo e del fatto che una volta qui ce ne dimentichiamo è una conoscenza spirituale, esoterica, ed è vero che è così, tant'è vero che noi possiamo risalire alle nostre vite precedenti, alla nostra vita intrauterina, con le regressioni, con l'ipnosi, quindi è un dato di fatto che esiste, però i bambini se lo ricordano, fino a che non cominciano a trovare qualcuno che gli dica che sono tutte cavolate, allora lì se ne dimenticano. E guardate, la Montessori dice una cosa, poi la vedremo, una cosa straordinaria, che a me mi viene da piangere a pensarci. Lei dice che i bambini dimenticano la loro divinità e cominciano a comportarsi da stupidi per compiacere i genitori. Per non spiacere, usa lei questa parola, per non spiacere i genitori, perché non vogliono che i genitori si sentano inferiori a loro. È grandiosa questa interpretazione, io non ci avevo mai pensato. Però è anche vero che io, per esempio, nel mio rapporto con i bambini non sono mai riuscita a considerarli bambini. Io non tratto con i bambini come se fossero bambini, e mi dà molto fastidio che di fronte a me bili bili bili bili, perché non sono stupidi, io li vedo come degli adulti in corpi ridotti, no? Io ho sempre avuto con i bambini e le bambine, chiaramente, questi, io li tratto come se fossero adulti, e loro evidentemente la riconoscono questa cosa, perché nonostante io non faccia nulla per essere particolarmente amata da loro, non gli faccio regali, i bambini mi adorano, le bambine mi adorano, ma mi adorano in un modo come se mi riconoscessero, come se riconoscessero in me una di loro, tra virgolette. Dopo crescendo questa cosa passa, con i miei nipoti era così, io quando erano piccolini li portavo dentro nelle grotte, li facevo toccare la madre roccia, li facevo mettere i piedi nell'acqua della roccia, facevo fare delle robe sciamaniche e loro erano entusiasti, mi piaceva tantissimo. Poi crescendo ho cominciato evidentemente a vergognarsi o a non crederci più tanto, per cui adesso io francamente adesso con i miei nipoti che hanno 18 anni non so più di che cosa parlare, mentre da bambini, nonostante io non sia mai stata madre, tra virgolette, in questa vita e non abbia esperienza di figli, però io con i miei nipoti piccolini li portavo nell'acqua e li facevo suonare il tamburo. Man mano che poi sono cresciuti tutte queste cose si sono perse. Quindi l'ho sperimentato in realtà, che è vero che i bambini fino a una certa età sono degli sciamani in miniatura, hanno questa memoria, questa profondità, questa connessione che poi si perde. Allora, la prima, diciamo, di queste cinque donne in ordine cronologico è Johanna Spyri, che è l'autrice di Heidi, ne abbiamo accennato in diverse lezioni, 1827-1901. E la mamma di Johanna Spyri, lo dicevamo la volta scorsa, due volte fa, seguiva il movimento spiritualista di Waldo Emerson, mi sembra, quello stesso di Louisa May Alcott, delle piccole donne, del papà di Louisa May Alcott. Mi sembra che sia quello, non ricordo esattamente, ma ricordo che la mamma di Johanna Spyri era una spiritualista, quindi trasmise comunque alla figlia certe conoscenze. 50 anni dopo, nel 1870, Maria Montessori, 1870-1952. Entrambe sono morte molto anziane, la Montessori addirittura 82 anni. La Montessori era teosofa, seguiva la filosofia, seguiva Alice Bailey. E quindi ha tutta un'impostazione spirituale anche lei. E tra l'altro, come Gabriella Mistral, morì esule. Sia la Montessori che la Mistral dovettero scappare dalle loro terre perché erano perseguitate. E quindi la Montessori morì in Olanda e la Mistral morì negli Stati Uniti. Sabina Schierheim, poi, 15 anni dopo, 1885-1942, lei morì molto giovane per mano nazista a Rostov, nella sua città natale in Russia. Lei aveva un nonno rabbino alchimista che probabilmente le trasmise le capacità medianiche per le quali, a causa delle quali poi fu considerata schizofrenica. Quindi anche lei ebbe comunque un'infarinatura esoterica e spirituale da bambina, questo nonno rabbino che era il padre di sua madre. Poi lei dove... Sabina Spielrein, il nome, 1885-1942, se vi interessano le date, perché sono le cinque più grandi secondo me. Johanna Spiri non fu un'educatrice nel vero senso della parola, ma se voi leggete Heidi, non il cartone animato, ma il libro vero e proprio, o se lo ascoltate su su YouTube, una versione letta, non da me, da una, io credo che sia Lella Costa, mi sembra di riconoscere la voce di Lella Costa per il Cantastorie, in quattro puntate, è bellissima, è la versione integrale, vi rendete conto di quante informazioni ci sono nella versione originale di Heidi sull'educazione dei bambini, sul fatto che devono vivere a contatto con la natura, che devono fare ogni giorno esercizio, che devono imparare a rispettare la montagna, ci sono tante informazioni che poi saranno riprese da Steiner, per esempio, e da professori anche, e da Mistral assolutamente. Quindi la Spiri è stata in assoluto la prima in ordine cronologico, anche se ha scritto solo un romanzo, ma un romanzo di peso. Poi, ecco, Sabina Spielrein è stata l'ispiratrice della psicologia dell'occulto di Jung, quindi ha dato un contributo enorme con il guaio, tra virgolette, di Sabina Spielrein è che lei non ha mai teorizzato ufficialmente la sua conoscenza. Lei prendeva degli appunti osservando sua figlia, ma lo faceva per sé. Quindi in realtà noi non abbiamo niente di suo, abbiamo solo le sue lettere, lo vedremo dopo, che tra l'altro erano nascoste e sono venute a galla per una pura casualità, ma lei non ha mai pubblicato, non ci ha mai pensato di pubblicare i suoi studi. Lei ha trasformato subito in pratica il frutto dei suoi studi, basati totalmente empirici, perché lei osservava la sua bambina e ricavava le sue informazioni esattamente come la Montessori è arrivata al suo metodo, osservando i bambini e quello che facevano. Però la Spielrein è una vita talmente disgraziata che non... quello che abbiamo, quel poco che abbiamo, lo abbiamo perché lei scriveva Jung e nelle sue lettere scriveva queste cose che sono, ci sono arrivate per questo motivo. Jung è uno sciamano. Jung è Carl Jung, lo psicologo, anche uno sciamano, sì, ufficialmente non è uno psicologo, psicanalista, credo. Comunque la psicologia dell'occulto è stato, diciamo, quello che ufficialmente ha collegato l'occultismo con la psicologia, con la psichiatria. Però prima di lui è stata sicuramente lei, anche se lei ufficialmente non risulta, la conoscono pochissime persone, per lo più quelle che studiano, quelle che si laureano in psicologia. Gabriella Mistral, 3 anni dopo la Spielrein, la Mistral, 1889-1957, morì a 62 anni. Ecco, Gabriella Mistral non ebbe mai ufficialmente un cammino spirituale, però io sono stata a casa sua, nella sua casa d'infanzia nel Valle dell'Elchi in Cile, e ho visto una cosa che si dice pochissimo, che nei documentari e nei film su di lei che vengono prodotti in America Latina viene taciuta. Quindi non lo sa quasi nessuno, però io li ho visti, nella sua biblioteca personale c'era Tagore. Rabindranath Tagore, il grande poeta indù, cioè era praticamente esoterismo in forma poetica. C'era Steiner, i libri di Steiner. C'era la Divina Commedia, quindi lei si è presa la briga nell'Ottocento di leggere la Divina Commedia in spagnolo. C'erano i trattati dei Rosa Croce, c'era la Teosofia e le opere della Bailey. Quindi anche lei, per conto suo, studiava esoterismo. Poi c'era una Bibbia integrale, i sonetti di Shakespeare, ho visto anche. tutto questo lei lo ha utilizzato, ha pescato in questo, perché sappiamo che era un'autodidatta Gabriella Mistral, ufficialmente non andò mai a scuola, quindi questo suo metodo così particolare di educazione lei lo ricavò anche da questa sua cultura esoterica, spirituale, che si fece da sola. E infine Pamela Travers, Pamela Lindo Travers, l'autrice di Mary Poppins, che conclude questa lista di 5 grandissime donne, 10 anni dopo la Mistral, quindi 1899-1996, che morì a Londra vecchissima, a 97 anni, fu dichiaratamente una discepola di Gurdjieff. E questo è stato tenuto nascosto e viene costantemente tenuto nascosto dai più. Cioè per trovare informazioni di questo tipo dovete scorrere su internet e andare in fondo dove c'è, non so, l'enciclopedia delle donne, piuttosto che siti dichiaratamente esoterici per trovare queste informazioni. Sicuramente in Wikipedia non lo trovate, e neanche nella Treccani. Ok, allora Maria Montessori. Qualcuno vuole dire qualcosa? Vado avanti. A meno di 30 anni è già famosa in tutto il mondo. Nel sceneggiato che hanno fatto per la RAI hanno dato enfasi solamente alla sua storia con il medico, quindi hanno tutta la seconda parte della sua vita, che è interessantissima, è stata completamente tagliata. Per cui veramente una roba squallidissima, e a me dispiace per la Cortellesi, perché la Cortellesi è veramente una bravissima attrice, mi dispiace che l'abbiano incastrata in un ruolo. Anche perché quel film lì recita malissimo, cioè dopo brutto da vedere, l'ho visto ieri sera e l'ho detto. Ah, hai guardato? Sì, sì, sì, sì, non mi è piaciuto. Ti è piaciuto? No, perché sapendo quello che sappiamo di Maria Montessori, sì, è veramente produttivo. Non dice niente. Lei è bravissima, ma secondo me è proprio rimasta incastrata in un ruolo troppo piccolo e troppo insignificante rispetto a quello che è stata davvero Montessori, Maria. Allora, io ho preso alcuni punti salienti che vi leggo e eventualmente li commentiamo o semplicemente li ascoltiamo. Lei dice: i bambini non devono stare fermi e ascoltare qualcuno che parla, che è esattamente quello che avviene nelle scuole. Imparare a memoria e ripetere, quindi non devono stare fermi, ascoltare, imparare a memoria e ripetere, perché per loro non ha senso. Non è che non ce la fanno perché sono stupidi, è che non comprendono il senso di questo. Cioè, il bambino, lei dice, è creatività pura. Se voi lo costringete ad ascoltare qualcosa che ha creato qualcun altro e a ripeterlo, lui non capisce perché lo deve fare, per quello non lo vuole fare. Vi racconto una cosa che mi è successa nello scorso viaggio in Cile, non questo che ho appena finito, quello scorso. Io mi sono fermata 10 giorni nel Valle dell'Elqui, ed è stato lì che ho incontrato, che ho conosciuto Gabriella Mistral, perché purtroppo in Europa non si conosce poco niente di lei, E nel luogo dove vivevo, dove vivono, che è il luogo dove stanno queste sorelle che faranno poi l'offerta nel posto della sua tomba, che si chiama Capovara, un centro di sanazione sulla riva del rio Cochiguazzo, una delle valli più sacre in assoluto del Cile, che è il Valle dell'Elqui, lo chiamano anche il corridoio delle stelle. Nel posto dove vivevo io, accanto alla cabana dove vivevo io, c'era una coppia di argentini, un marito e moglie con un bimbo piccolino, forse 2 anni, che si erano trasferiti a vivere lì nel Valle dell'Elqui dall'Argentina. E questo bimbo era, con tutti i bimbi figli di genitori molto alternativi, un selvaggio totale. Cioè, questi bambini che sono argento vivo, no? Non li tieni. La madre era pittrice, giovanissima, avranno avuto forse 25 anni ciascuno. La mamma dipingeva ed era lì con i suoi quadri, su tutta la sua attrezzatura per dipingere. Il bambino la guardava e voleva dipingere anche lui. E si arrabbiava perché non riusciva a fare quello che faceva la madre. Allora io, che ero lì e guardavo, gli ho detto: guarda, è così che fa la tua mamma. Ho preso in mano, non mi ricordo se un pastello, un pennarello, gli ho detto: guarda, fa così. E mi chiedevo: ma perché non le insegna? Lei è pittrice, cosa ci vuole insegnare? Lei si è rivoltata contro di me, mi ha detto: io non voglio che tu insegni, ci deve arrivare da solo, no? Solo che io, siccome sono un'empatica, stavo male a vedere la frustrazione di questo bambino che non riusciva a fare quello che faceva sua madre e, non, e quindi per, fa, insomma, per aiutarlo gli ho fatto vedere lei, che era una steineriana, non so se fosse ancora montessoriana, probabilmente sì, perché Montessori è molto più conosciuta all'estero che in Italia, eh. Montessori, io ho un'amica carissima a Parigi, per esempio, è ungherese, però vive a Parigi, che Montessori la conosce così, e in Francia è conosciutissima, cioè, solo qui da noi, che proprio abbiamo soprattutto. Sì, in Olanda c'è proprio la fondazione Montessori, sì, sì, mai in tutto il mondo è conosciuta, direi, tranne in Italia, ovviamente. E quindi lei non voleva che io insegnassi al bambino perché è proprio attraverso la frustrazione che il bambino, lei dice magari lui ci arriva, arriva a fare una cosa diversa, diceva questa ragazza, se tu gli fai vedere come faccio io, lui poi fa delle copie di quello che faccio io, devi lasciarlo in pace. Io, mamma mia, stavo malissimo perché sto bambino era frustratissimo, però ho capito poi leggendo Montessori, allora lo capì. Adesso leggendo lei mi rendo conto che questa mamma aveva ragione, perché magari il bambino nella sua frustrazione si sarebbe inventato qualcosa di, che ne so, tipo dipingere con le foglie piuttosto che con l'arena del fiume, no? Una cosa totalmente creativa che non sarebbe potuta venire, non gli sarebbe potuta venire in mente se avesse appreso a fare come la mamma, no? Non è facile, mi rendo conto, non è facile reggere, perché quando i bambini sono così creativi hanno una tale carica che ti stende se tu sei una persona empatica, no? Perché lo senti, la loro fame, senti che hanno proprio questo desiderio enorme di creare, perché è, come dire, è la fase della loro esistenza in cui loro non devono fare nient'altro che creare. I bambini, no? E svilupparsi, crescere, creando continuamente. Quindi è difficile sostenere questa enorme carica di tensione e di energia che loro hanno. E devono essere veramente brave le mamme e i papà a sostenerla questa cosa. Infatti nelle scuole Steiner, specialmente nei primi anni, sono assolutamente turbolenti i bambini, ma è una turbolenza positiva, non è, no, è armoniosa, non è mai una turbolenza distruttiva, un po' come nelle scuole Montessori che era lì. Allora, lei ha inventato, per esempio, parlava di psicogrammatica, ossia una grammatica coerente nella quale non si insegna al bambino tu devi parlare così perché si fa così, ma viene spiegato al bambino il senso del linguaggio. E che è un po', diciamo, un modo sciamanico di approcciarsi alla parola, al verbo, perché il verbo crea, noi sappiamo che il verbo è creazione, gli sciamani lo sanno molto bene questo. Quindi imparare ai bambini qual è l'origine, qual è il senso della parola, serve a insegnare loro a creare con la parola e soprattutto a non usare le parole a sproposito, perché le parole devono essere usate sapendo che creano. Quindi devono essere usate con cognizione di causa. Questo lei lo sapeva. Lei era un medico, eh? Quindi pensate che avanti, che era incredibile. Poi lei dice che non bisogna metterli in competizione, che non bisogna fare in modo che si confrontino l'uno con l'altro e che non devono studiare per i voti, che è esattamente l'opposto di quello che succede nelle nostre scuole. Sì. Lei dice che il bullismo nasce dalla noia degli studenti, perché non possono creare, non possono usare la loro parte creativa e energetica e quindi la devono sfogare in qualche modo. Qualche anno fa scrissi un articolo in cui io sostenevo che il fatto che nella nostra società sono state dimenticate le, come si chiamano, aiutami, le passaggi di età, i rituali dei passaggi di età che si fanno nelle tribù native. L'iniziazione. Esatto, le iniziazioni che si fanno nell'adolescenza, quando nelle tribù native, per esempio, la bambina ha la prima mestruazione e il maschietto fa la sua ricerca della visione, fa la sua prima caccia e riceve il suo nome. I riti di passaggio, questa è proprio la parola, esattamente, no? Ecco, il fatto che siano stati aboliti i riti di passaggio, che il nome venga dato dai genitori a canchera, cioè senza, una volta i nomi venivano scelti dagli sciamani e dalle sciamane in base ai presagi che c'erano alla nascita dei bambini, quindi i nomi erano evocativi del cammino che loro avrebbero dovuto camminare, no? Oggi i nomi vengono scelti sulla base dei personaggi di Beauty e i riti di passaggio sono stati cassati, per cui vabbè, sì, c'è la comunione e la cresima, ammesso che siano riti di passaggio, però il ragazzino e la ragazzina non si possono più confrontare con la parte primitiva fisica, non possono più, tra virgolette, guadagnarsi l'ingresso nelle comunità degli adulti, la bambina nelle comunità delle donne e il maschio nella comunità degli uomini. Ecco perché questi adolescenti hanno così bisogno di provare a se stessi facendo dei danni, perché è il rito di passaggio di cui loro hanno bisogno che non viene gestito in maniera ordinata, in maniera razionale, in maniera condivisa, comunitaria. Mi raccontava un'amica di Parma che tra loro ragazzini, quando avevano 16-17 anni, dovevano fare una sfida, dovevano rubare qualcosa. E chi non riusciva a rubare qualcosa non veniva considerato un cretino o una cretina, non veniva accettato nel clan, nella band. Questo cos'è se non un rito di passaggio fatto in modo disordinato e inconsapevole? Sarebbe molto meglio prendere questi ragazzini e ragazzine e fargli fare una camminata sui carbonieri o una ricerca della visione, ovviamente con modalità che loro possano tollerare. Certo, nessuno pretende che bevano la ayahuasca a 14 anni o che stiamo 4 giorni e 4 notti nel bosco, come si fa, non so se tu l'hai fatta la ricerca della visione, però obiettivamente è molto dura. Quindi, però potrebbe essere fatta in una maniera più, diciamo, più soft, in maniera che loro possano avere la sensazione di quello che valgono senza bisogno di fare i teppisti. E quella si viene valorizzare, sì. Perché invece secondo me quello che noi cerchiamo di fare è fargli credere di essere dei piccoli adulti, ma senza porre l'enfasi su cos'è questo passaggio, ma effettivamente noi diventiamo adulti senza dei riti di passaggio, cioè noi non ce li abbiamo avuti. Certo, a meno che non ci siamo creati, però non sai bene quando c'è stato questo passaggio. E infatti abbiamo tutti quanti problemi di autostima dopo andiamo a fare i corsi per recuperare la nostra autostima, perché quella che per noi chiama l'educazione non è nient'altro che imparare a pesce quello che è stato stabilito che noi dobbiamo sapere, chiaramente. Creatività zero. Io a scuola sono sempre stata molto molto bocciata per la mia creatività. Tutte le volte che io cercavo di fare qualcosa di diverso da quello che era il piano, io venivo, anziché venire valorizzata e come dire, stimata per questo, venivo punita. Mi davano, io avevo imparato a mentire, per esempio quando facevo i temi di letteratura al ginnasio, anche al liceo, avevo imparato che se facevo il tema di letteratura e scrivevo la mia critica personale a un certo autore, perché erano tutti maschi quelli che ci facevano studiare, prendevo 4, perché mi inventavo le cose. Se io invece scrivevo la mia critica personale, ma tra parentesi ci mettevo De Santis, per esempio, che era il nome di un critico ufficialmente adottato, prendevo 8. Quindi l'insegnante, invece di apprezzare il fatto che io avessi una mia opinione personale, la considerava una disobbedienza, perché bisognava ripetere a pesce il dogma. Quindi questo è quello che crea, secondo me, sempre di più questi adolescenti bulli e teppisti che non hanno voglia di andare a scuola, che non si sentono motivati, che non hanno nessuna motivazione in realtà a diventare adulti. E la Montessori lo dimostra chiaramente, lo dice. Forse per questo il suo metodo non è usato in Italia, perché chiaramente dei ragazzini, degli adolescenti disturbati diventano consumatori di psicofarmaci, di droghe, di alcol, no? Quindi è un mercato che rende, mentre istruirli alla pace e all'armonia a priori non rende più. Un metodo forse anche inconsapevole per limitarci, no? Certo, per consapevo, molto consapevole per limitarci, certo, anche perché limitarci cosa significa? Significa che poi arriva il momento in cui sbrocchiamo, perché noi siamo esseri divini, siamo creativi puri, creative pure, però poi sbrocchiamo perché ci sentiamo tappate le ali. Il discorso che facevamo alla prima lezione, vi ricordate quando Virginia Woolf diceva tutta questa creatività distruggerebbe le pareti se fosse bloccata, ve lo ricordate? Ecco. E quindi torniamo lì alla fine, diventiamo quindi consumatrici di ansiolitici, di sedute di psicanalisi, piuttosto che per imparare a convivere con questa creatività repressa, per non parlare dei tumori agli uteri e di tutti gli altri tumori dell'apparato femminile che non sono nient'altro che continuare a castrare la propria creatività per non essere giudicati da fuori, credo. A me, io penso che sia proprio questo. L'aggressività è segno di paura, dice lei. Gli animali ce lo dicono, dice Maria Montessori. Quando l'animale è aggressivo è perché ha paura. Dice lei, i ragazzini e le ragazzine ricevono un insegnamento indiretto all'aggressività perché vengono abituati ad aver paura costantemente. Montessori diceva, noi non insegniamo nulla. Solo offriamo all'infanzia un ambiente dove possa trovare la sua strada e il suo talento. Questa è la grande innovazione. E qui, secondo me, lei sta parlando di risvegli di memoria. Se lei dice non insegniamo nulla e i suoi bambini nelle sue classi a 4 anni imparavano a scrivere da soli, è perché risvegliavano le memorie. Quindi è la dimostrazione che noi abbiamo tutto dentro di noi, nell'acqua delle nostre cellule, se ci viene fornita la possibilità di risvegliare queste memorie attraverso la meditazione, piuttosto che, pensate se soltanto si mettesse la meditazione obbligatoria nelle scuole, come sarebbe già diverso, no? Come si imparerebbe a incanalare l'aggressività. Come mi è rimasto impresso, racconta la Giovetti di quando Maria all'età di 10 anni circa ha un'influenza e rischia di morire, no? E i genitori al suo capezzale stanno aspettando che se ne vada, lei si risveglia e dice no, io non morirò perché ho molte cose da fare, ed era stata un po' ritardata a scuola. Maria Montessori? Sì, l'ho detto. Faceva fatica ad apprendere, non aveva memoria. Dopo questo evento ha iniziato a vivere in maniera molto più brillante. Probabilmente si è risvegliata la sua memoria, il suo cammino. E questa è la classica chiamata sciamanica. Adesso io ti ringrazio perché questo non lo sapevo. Tu hai letto il libro della Giovetti o hai ascoltato solo la conferenza? Il libro, all'inizio. Questo nella conferenza non lo dice, per esempio, ma è importantissimo perché nella tradizione sciamanica si dice che le sciamane riceva che si sappia, cioè si scopre quando una è sciamana perché a un certo punto si ammala. Questo mi raccontò la Maci, ve lo dicevo, no? La Maci Mapuche, quando incontrai la Maci in Araucanía, mi disse che si era malata e non c'era modo di guarirla finché un'altra Maci non le aveva detto tu devi diventare Maci. E per esempio il De Garda di Bingen, che aveva sempre mal di testa, era sempre malata da bambina, fino a che non ha cominciato ad accettare le sue visioni. Questo è tipicamente il risveglio del cammino sciamanico. Si manifesta sempre attraverso una malattia. È come se fosse il segnale o il portale, forse. Può darsi che la malattia sia anche un modo per aprirsi, no? A certe frequenze. Sicuramente la Montessori era una sciamana. Tu adesso me lo confermi attraverso questa. Questa è stata proprio la classica chiamata. Quindi lei è stata male perché poi da lì ha avuto modo di intraprendere la sua strada. Grazie, questa è una bella informazione. Ecco, osservare i bambini, lei osservava i bambini per scrivere il suo metodo, Maria Montessori, come ha fatto Sabina Spierani. Quindi sono metodi che partono con una base totalmente empirica, pratica, non c'è dogma, non c'è teoria di nessun tipo, nonostante fosse un medico, la Montessori. Ma evidentemente riteneva che i bambini, e poi lo dice, i bambini sono maestri, quindi lei li osservava per imparare da loro. Il suo scopo non era quello di imparare un metodo, Il metodo poi è come se fosse stato un effetto collaterale del fatto che lei semplicemente li osservava perché era convinta di poter imparare lei qualcosa da questi bambini. Ecco, il metodo... Diciamo che l'ha imparato, ha scritto tutto un metodo, quindi indubbiamente o ce l'aveva già dentro e si è risvegliato attraverso, perché comunque io sono convinta che il sistema adesso mi sta venendo questa cosa che non avevo realizzato, ma il sistema di cui parla, il metodo di cui parla Maria Montessori doveva essere esattamente il sistema che veniva usato nei clan patriarcali, quando i figli erano figli della comunità, non c'era la figura del padre, per cui i bambini che nascevano non si sapeva di chi era il padre, erano figli di tutte le madri degli zii, gli zii materni, no? La figura maschile di riferimento nel clan era lo zio, il fratello della matriarca, della capoclan. Ne ha parlato di questo metodo di educazione, ne ha parlato per esempio Tommaso Campanella nella sua Città del Sole, che secondo me è un risveglio di memoria proprio delle civiltà matrifocali. Parla proprio di questo modo di educare i bambini, Tommaso Campanella, visse in pieno tribunale dell'Inquisizione. Quindi io mi sembra intorno al 1600. Quindi io credo che sia in realtà così che questo ambiente che lei creava per i bambini, che era un ambiente estremamente spirituale, permise a lei di risvegliare le memorie delle sue antiche conoscenze neolitiche, di questi clan matriarcali che avevano questo stesso sistema di gestire l'infanzia. Ecco, la Spielreich elaborò il metodo che lei chiamò, quello che lei utilizzò poi nell'asilo bianco, che creò quando tornò in Russia, per quel poco tempo che creò in Russia, dove accoglieva bambini disagiati e li aiutava a recuperare le loro facoltà comunque attraverso le canzoni, la musica, quindi un metodo assolutamente alternativo rispetto a quello che i metodi che venivano utilizzati, che erano abbastanza brutali. Cioè quando una persona era disturbata non si pensava che fosse recuperabile, venivano utilizzati semplicemente dei sistemi brutali per sedarla, la persona, ma si considerava irrecuperabile. Lei, quando lei incontrò Jung, gli offrì la possibilità di mettere in pratica quello che lui pensava, ma che non aveva mai sviluppato prima, cioè che la persona, tra virgolette, pazza fosse recuperabile, cercando di scoprire perché era diventata pazza. In effetti lei fu poi, lo vedremo, il capolavoro di Jung. Ecco, lei dice, invece di offrire pacchetti sterili di nozioni, bisogna partire dalla terra, dalla natura, dai fenomeni naturali, che sono le domande più ovvie e spontanee nei bambini. Stessa identica cosa che dice Gabriella Mistral, dall'altra parte. Quindi a distanza di quanto tempo? Una trentina di anni, forse meno. Allora, Montessori 1870, Mistral 889. Quindi a distanza di 15 anni, 20 anni, una dall'altra, hanno fatto la stessa cosa da una parte e dall'altra, perché il Cile più o meno è qui e l'Italia è qui. Quindi sì, è stato come se fosse un proprio risveglio di memoria circolare planetario che nel giro di quegli anni lì ha portato un risveglio di memorie su come considerare l'infanzia. Lei dice che non ci devono essere ricatti né abusi con i bambini dice hanno bisogno di rapporti puliti. I legami anche in famiglia vanno costruiti quando sono piccoli senza essere invasivi ma presenti. E lei batte molto sul fatto che i bambini non sono degli stupidi, non li si può imbrogliare, non li si può dire se fai il bravo ti do e poi non glielo dai. Perché? Intanto perché loro credono ai loro genitori. E poi perché non hanno ancora imparato la malizia, non hanno ancora imparato la menzogna. I bambini credono a tutto quello che gli viene detto perché l'archetipo che hanno dentro è quello della verità. Non è la menzogna che viene insegnata dagli adulti che mentono. A me, per esempio, ogni tanto mi vengono delle memorie così, quando ero in collegio, io ho fatto le elementari in collegio con le suore e non ci permettevano di andare a bere perché per qualche motivo stupido, quando avevamo sete e chiedevamo di andare in bagno a bere ai rubinetti, dicevano no, dovete fare il fioretto e pensare ai bambini in Africa che muoiono di sete. Cioè, una roba illuminante, no? Per cui io avevo imparato a mentire e quando avevo sete, siccome sapevo che se dicevo la verità non mi lasciavano andare, mi inventavo qualcos'altro per poter uscire. Perciò vengono addestrate, l'infanzia viene addestrata alla menzogna, perché sa che molte volte se dice la verità non viene permesso di fare quello che hanno bisogno di fare. Ecco, lei, la Montessori, incontrò la teosofia a Londra e non certo in Italia, e la sviluppa poi in India E di questo non si parla nelle sue biografie, in nessuna delle sue biografie ufficiali. L'unica che ne parla è la Giovetti, ma perché la Giovetti anche lei è lei dice, Montessori dice, questo io l'ho segnato in rosso, il bambino è il padre dell'uomo, non il figlio. Il bambino è il padre dell'uomo. E l'umanità sarà migliore se voi imparate a trattare i bambini con rispetto e gentilezza. Questa visione che il bambino è il padre dell'uomo è un po' un rovesciare, e anche questa è un'operazione sciamanica, cioè rovesciare, immaginare che quello che noi vediamo, quello che noi percepiamo della realtà è tutto rovescio rispetto a quello che è. Abbiamo parlato anche nelle lezioni precedenti di come l'occhio ribalta l'immagine per poterla vedere, di come il feto si rovescia per poter nascere. Quindi pensare al bambino come padre dell'uomo non è una metafora, è reale. Come voi immaginate che la ghianda è la madre della quercia, non è la figlia. Quindi da quel bambino nascerà l'uomo, e a seconda di come verrà trattato quel bambino, l'uomo sarà un bravo uomo, o purtroppo usiamo il maschile, o una brava donna o meno. Ecco, lei nella sua scuola dava molta enfasi all'igiene, cosa che non veniva quasi considerata, perché lei, oltretutto, nell'ambiente in cui opera lei, che era di bambini poveri e disagiati, sicuramente l'igiene non era considerata in cima alla lista delle priorità. Era quindi proprio l'igiene degli insegnanti, anche a un certo punto, se non sbaglio, sì. Stava tanto anche su qua. Cioè, il fatto che fossero i primi ad esempio. Sì. Perché a quanto pare un po' di apertura, un po' stupito. Sì, beh, non, in realtà non lo è, perché non avevano per esempio l'abitudine di lavarsi le mani, no? Anche solo una cosa così, io l'ho vista in diverse situazioni, in diversi film o libri, ho letto questa cosa, no? Anche soltanto il fatto di insegnare a lavarsi le mani, che per noi è una roba così banale, non era per niente scontata, e molte malattie venivano trasmesse anche negli ospedali, non era, semplicemente perché non si lavavano le mani prima. Mi pare che Marie Curie sia stata anche una di quelle che batteva molto sul fatto di lavarsi le mani prima di fare qualunque tipo di operazione. L'alimentazione era un'altra delle cose su cui lei batteva, e giochi intelligenti che fossero stimolanti della creatività, materiale per costruire, poter utilizzare le mani, un ambiente pulito e accogliente. Lei batte molto anche su questo, che l'ambiente doveva essere pulito, accogliente e armonioso. Questi erano bambini che provenivano da famiglie dove erano abbandonati a se stessi, probabilmente c'erano topi, c'erano scarafaggi. Non so se avete visto, qualcuno di voi ha visto il film La Papessa, anni fa, quando è uscito? No, mi sono ancora poco. Beh, c'è una scena comunque in cui mi è piaciuto moltissimo quel film, nonostante tutta la campagna negativa terribile che poi è uscita in Italia, hanno detto che erano tutte bugie. Io invece ci credo molto a che quel film abbia pescato in una parte storica vergognosamente occultata, dove c'era lei, questa papessa, ve la ricordate, Johanna si chiamava, Giovanni Anglico poi si fece chiamare quando cominciò a far finta di essere un uomo per poter studiare. A un certo punto è a Roma, è ancora in Franconia, nell'abbazia dove si spaccia per maschio. Guardatevelo questo film se vi capita, perché è veramente una fucina di informazioni interessanti sulla storia delle donne. E si presenta, a un certo punto ci sono dei lebbrosi, tra virgolette, fuori dall'abbazia che vanno a chiedere aiuto e vengono scacciati malamente. Lei, barra lui, lei è una donna che faceva finta di essere un maschio, esce e li guarda, lei barra lui, era quella che conosceva le erbe, era diventata l'aiutante del monaco erborista. Esce, guarda tutti, e tra tutti questi lebbrosi c'è una donna, anche vi ricordate questo dettaglio, c'è una donna che ha delle croste in faccia, però lei dice no, lei non è lebbrosa, lasciatela a me che io la guarirò, e si rende conto che è solo sporca. Ovviamente l'abate non è d'accordo per niente, dice a Turis, lei insiste, Johanna insiste per poter avere la dispensa, per uscire, andare nel villaggio e andare a vedere la situazione in cui viveva questa donna, perché volevano metterli in quarantena, quindi impedirgli di tornare nel villaggio. E la donna, questa donna che sembrava malata, ma che di fatto non lo era, si mette a piangere, a dire: ho quattro bambini a casa che mi aspettano, moriranno di fame se voi non mi permettete di tornare a casa. E allora Johanna dice: no, vengo io con te, garantisco con te, chiede all'abate di dispensarla, Barralò, di dargli la possibilità, dice: io mi prendo la responsabilità, vi garantisco che io la guarirò. E va con lei, entra nella capanna e si rende conto che questi quattro bambini vivevano nella sozzura più totale. C'erano topi, c'erano scarafaggi, c'erano escrementi nella capanna, quindi i bambini vivevano in questo stato. Allora li porta fuori tutti quanti e li lava, mette a scaldare un pentolone di acqua, li lava tutti quanti, utilizzando, io credo che allora non ci fosse sapone, forse si usava la cenere, la liscia, non lo so, e lava la madre e comincia a praticare semplicemente l'igiene e a insegnargli un'alimentazione migliore. Non so, per esempio a cucinare più polenta o meno polenta, adesso io non lo so, moltissimi di loro avevano la bellagra perché mangiavano solo mais, per esempio gli mancava completamente le vitamine, magari non lo sapevano, no? Che potevano anche andare a prendere erbe selvatiche piuttosto che frutti o bacche per integrare l'alimentazione. E lei guarisce questa donna che era solo sporca, era talmente tanto sudicia che sembrava lebrosa, guarisce lei, guarisce i bambini che si stavano ammalando anche loro e li salva tutti quanti. Quindi ci sta effettivamente che un'insegnante illuminata desse così tanta enfasi all'igiene e all'alimentazione, perché è veramente la base di mensa sana e corpore sano. Quindi lei racconta che i bambini imparavano a scrivere da soli collegando i suoni alla forma delle lettere intagliate nel legno. Però impararono a scrivere, non a leggere. La scrittura venne immediata dal tatto, no? Impararono a collegare i suoni alle lettere e quindi a scrivere le parole. La lettura arrivò dopo. Infatti quando andarono, avrete letto, vi ricorderete, quando andarono gli ispettori e videro questa cosa incredibile, i bimbi di 4 anni che sapevano scrivere, rimasero stupiti che non sapessero leggere. La lettura arrivò dopo, perché allora i bambini cominciarono a collegare le forme delle lettere anche ad una sequenza di suoni, oltre che alle parole scritte. Ecco, anche Maria, come Gabriele e tante altre, dovettero scappare dal loro paese e rifugiarsi all'estero. Questo successe anche a Marie Curie, per esempio, Maria Gimbutas, le più grandi donne della nostra epoca, è quasi chissà come se fosse un passaggio obbligato, no? Questo dover scappare dalla propria terra per poter... quasi come se fosse una prova iniziatica, tra virgolette, no? Sopravvivere alla fuga. Sapete che Maria Gimbutas dovette scappare perché ci fu l'invasione stalinista, lo stesso Marie Curie dovette scappare dalla Polonia e andare in Francia, quindi forse un po' come un'ordalia, no? Questo dover fuggire e andare in una terra straniera per tirare fuori il proprio potenziale. Non si dice nessun profeta al padre. Anche sì. A 15 anni, e lei sapete che aveva un figlio illegittimo, a me non interessa ripercorrere questa parte della sua storia, lei lo andava a trovare tutte le settimane, fino a che a 15 anni il ragazzino le chiede se tu sei mia madre, e lei gli risponde sì, perché c'è arrivato il ragazzino, che questa donna doveva essere sua madre. Quindi a 15 anni finalmente il figlio può andare a vivere con lei, Mario, e diviene il suo più grande collaboratore, tra l'altro. Con una dolcezza, con un'umiltà, questo lo dicono tutti, no? Che lui l'aiutò e fu un grandissimo sostegno, le teneva ordinate le carte, quindi l'aiutò veramente tanto nella sua attività, e lei spesso dice: senza Mario io non avrei potuto fare tutto quello che ho fatto. Questa cosa di avere un figlio non proprio, non riconosciuto, è una cosa che accomuna Montessori e Mistral, perché Gabriella Mistral ebbe un figlio anche non suo, alcuni dicono che era un suo figlio illegittimo, la storia ufficiale dice che era figlio di un suo fratellastro, Gingin, lo chiamava lei, che poi lo ebbe che era piccolino, lo seguì in tutti i suoi vari pellegrinaggi intorno al mondo, ufficialmente era suo nipote, molti dicono che in realtà era suo figlio illegittimo. E così come questo figlio non riconosciuto fino a 15 anni è comunque un figlio senza padre, quindi un figlio particolare, È curioso che ci sia questa comunanza, una delle tante, tutte e due esuli dalla loro terra, tutte e due con un figlio non riconosciuto e illegittimo. Montessori fu candidata 3 volte al Nobel, non fu premiata perché il figlio era illegittimo, Mistral invece il Nobel fu dato perché ufficialmente era nipote, non era figlio. E anche Maria diceva che il figlio era adottivo per un certo periodo perché altrimenti si sarebbe distrutta la carriera, quindi non lo dichiarò per un bel pezzo. Gabriella Mistral dice, e questo lo dice anche la Montessori, le facciamo un po' il parallelo queste due figure perché è incredibile quanto hanno avuto in comune, dice che i bambini nativi sono liberi e orgogliosi e devono apprendere la loro storia e la loro cultura, non quella coloniale. Questo dice Gabriella Mistral. Perché ovviamente la cultura ufficiale ai suoi tempi in Cile era quella tedesca, quella materia europea, le maestre erano quelle tedesche e insegnavano una cultura che non c'entrava niente con quella loro nativa. Sia Mistral che Montessori cominciano la loro carriera con bambini disagiati o poveri. La Mistral con i campesinos, perché non avendo avuto un'educazione ufficiale, non essendosi diplomata, perché le impedirono di poter prendere il diploma, quindi lei la sua istruzione se la fa da sola e all'insegnamento addirittura arriva ad essere preside, cioè arriva da sola per i suoi meriti, anche perché accetta di andare in posti dove non voleva andare nessuno, in Patagonia, eccetera. Quindi lei comincia con i campesinos, bambini e bambine del campo, mentre la Montessori con i bambini ritardati. Questa è anche una cosa che mi dice, che mi fa battere il cuore, questo funzionare in parallelo, è quasi come se fosse un passaggio obbligato, no? Per arrivare a manifestare questa loro grandezza, il fatto di aver dovuto iniziare veramente con 0 strumenti. La Montessori ha potuto laurearsi e comunque ha vissuto in una famiglia di un certo agio, ma la Mistral addirittura era proprio figlia del popolo, era povera, è stata veramente di una bravura, di una grandezza di arrivare dove è arrivata, quindi, però tutte quante sono state aiutate in qualche modo, tutte queste donne sono state aiutate, anche Marie Curie, per esempio, se voi conoscete la sua storia, lei ha incontrato Pierre, quello che poi è diventato suo marito, che le ha permesso di fare i suoi studi, di scoprire, cioè è come se Maria Gimbutta sia stata aiutata anche, cioè tutte queste grandi donne che hanno comunque fatto dei sacrifici enormi, che hanno dovuto andare via dalla loro terra, però hanno sempre trovato chi le ha aiutate, quindi in realtà forse c'era già un cammino tracciato. Tu se vuoi sederti per terra fai pure. Ma non ho potuto uscire. Cioè, Ti do quello che c'è. No, perché è un po' freddino. Fa freddo. Ah, aspetta. Allora, Maria fu invitata in India e patrocinata da Gandhi e da Tagore. Tagore era il padre dei poeti indù, Rabindranath Tagore. Quindi fu invitata in India in una situazione decisamente spirituale. E fu ospitata nel quartier generale della Società Teosofica, dove tenne un corso per formare 300 insegnanti con il suo metodo e dove fu internata perché risultava nemica, in quanto l'India era colonia inglese e l'Italia era alleata della Germania a quell'epoca, quindi dovette rimanere chiusa dentro nel quartier generale. Dovete sfuggire al fascismo perché il fascismo tentò di strumentalizzare il nome che nel frattempo Montessori si era fatta in tutto il mondo per avvalorare le teorie fasciste, no? Cosa che lei non accettò assolutamente, per cui dovette però scappare. In India invece erano convinti che lei fosse l'incarnazione della Grande Madre e la trattavano davvero come se fosse una dea. Però lei insegnò ai bambini del popolo, ancora una volta, non insegnò ai figli dei ricchi, insegnò ai bambini. E come Hildegarda, a me piace, mi piace molto trovare questi paralleli tra queste grandi donne, perché è come se fossero diverse facce di un'unica figura che poi era grande madre. Hildegarda di Bingen, abbiamo visto che a 70 anni si mise in viaggio per andare a predicare a cavallo, centinaia di chilometri a cavallo, per andare a predicare fino nelle Fiandre. Lei, c'è qualche telefono che suona? A 70 anni Montessori partì per l'India, e a quei 70 anni dell'epoca non sono certo 70 anni di oggi. E fu in India che sviluppò l'educazione cosmica, olistica nel senso totale. In India lei stava benissimo e la adoravano tutti. Pronunciò in India il discorso "Il bambino eterno messia". Eterno messia. Eterno messia. Nell'anoressia. No, il bambino eterno messia. Lei diceva, la gente pensava che io parlassi di un metodo pedagogico, mentre io parlavo di una rivelazione che mi è stata data dall'anima. Quindi è in questo ambito totalmente spirituale che lei si muove e che elabora l'ultima parte dei suoi studi, che sono i più importanti, quando lei parla di educazione pace, educazione alla pace. Educare per la pace. Sì, dice che i bambini hanno il potere di cambiare il cuore degli uomini, che i bambini sono insegnanti messia, e che non è lei che insegna loro, ma loro a lei tramite rivelazione, usa proprio questa parola. Per me rivelazione è il risveglio delle memorie, io la vedo così. Sì, non era certamente un discorso religioso che lei faceva, era più vicino alla fisica quantistica, perché cos'è la rivelazione se non mi ricordo, quindi risveglio di memorie. In India osservò il rapporto tra neonati e madri, e questo è in parallelo con la Spirrein che osservava la bambina. Lei osservava il rapporto tra neonati e madri, i parti in casa, le madri che partorivano in casa, i bimbi legati sulla schiena che partecipavano tutta la vita degli adulti, e scrisse lei della nascita non violenta 30 anni prima di Le Boyer, che poi teorizzò il famoso metodo, quindi lei ci è arrivata prima, molto prima. Anche se non lo divulgò, perché secondo me nella seconda parte della sua vita era talmente tanto quello che le arrivava che lei non arrivò neanche a teorizzarlo, perché quando un essere umano, secondo me, si risveglia completamente alla conoscenza totale, alla conoscenza divina, sa talmente tanto che non riesce neanche più a metterlo su carta, cioè non ha sapienza, è sapienza, diventa sapienza incarnata. Questo secondo me è il risveglio. È il risveglio della maestra. Sì, è questo, no? E mi stava venendo adesso anche un'altra figura di persona che secondo me è stata così. Accidente, mi è scappato. Vabbè, mi tornerà. Sicuramente il Degarda è stato, però il Degarda ha scritto tanto. Marie Curie. Quasi tutte queste grandissime non sono arrivate a scrivere tutto quello che sapevano di Ibrahim e tutto quello che ricordavano. Morì all'improvviso e inaspettatamente in Olanda, ma non si sa neanche di cosa, è proprio come se avesse a un certo punto terminato il suo cammino. Morì molto bene, mentre stava ricevendo l'ambasciatore del Ghana, stava accettando di andare in Ghana per insegnare e addestrare, formare gli insegnanti. Se ne andò. Quindi non aveva avuto malattia lei? No. Proprio morto. Ma guarda, Marie Curie, che tutti quanti, che ha maneggiato per 30 anni, ha maneggiato materia radioattiva, perché senza, ovviamente non si sapeva, lei ha scoperto la radio, quindi non si sapeva all'inizio quali fossero gli effetti, si pensava che fosse solo una roba benedetta. Lei ravanava in questi pentoloni di materia radioattiva come se fosse la polenta per ore e ore all'aperto per ricavare un atomo di... quindi tutti quanti pensavano quando morì che fosse morta consumata dalle radiazioni. In realtà quando aprirono la sua tomba molti anni dopo, trovarono un contenuto bassissimo di radiazione rispetto a quelli che ci si sarebbe immaginati. Quindi è come se in realtà, ma la stessa Sabina Spirrein si consegnò, lei lo sapeva, ma si consegnò, cioè come se a un certo punto si fossero rese conto che avevano terminato questa parte, e un po' po' come quando abbiamo parlato di Virginia Woolf e del suo suicidio, no? È come se ognuna di loro, ognuna di queste grandi donne, venisse per incarnare una parte di sapere. Quando termina, semplicemente se ne va. Va e ritorna all'origine, per poi magari tornare, perché ha compreso di aver terminato la sua missione. Sono donne che riescono a non avere più nessun tipo di attaccamento, che abbiano avuto successo o no, perché Montessori è stata indubbiamente una donna di grande successo, Hildegard è stata di grande successo, Marie Curie che prese il Nobel, ma per esempio Sabina Spierai non è stata una donna di successo, perché non è stata minimamente riconosciuta la sua opera. Eppure tutte quante hanno questo approccio comune, che non hanno attaccamenti verso quello che fanno. E semplicemente a un certo punto se ne vanno perché hanno terminato la loro missione. I bambini di 3 anni, questo è scritto nel suo metodo, si stufano con i numeri interi mentre si divertono con i decimali. Cioè capiscono meglio i decimali perché sono più divertenti i numeri con le virgole, piuttosto che i numeri interi. Quindi è più facile spiegare i decimali, che ufficialmente sono più complessi. Hanno un'enorme capacità di apprendimento che non viene sfruttata, è chiaro, come se immaginate nella pianta il germe, no? Il germe porta in sé all'ennesima potenza tutta la vitalità che deve poi sviluppare nella pianta. Una quercia, un baobab, ha tutta la vitalità chiusa, concentrata dentro in quel piccolo semino. Per il bambino è la stessa cosa, ha già in potenza, due parole, tutta la creatività, tutto il sapere, tutto quello che poi avrebbe sviluppato da adulto. Quindi diciamo questa capacità di apprendimento enorme che non viene sfruttata, perché vengono considerati come dei puppies, dei cuccioletti senza niente nella testa, semplicemente come contenitori da riempire, vuoti, da riempire con le stupidaggini degli adulti. Dice che i bambini sono divini perché capiscono dei concetti difficilissimi, purché siano loro proposti come giochi, chiaramente, quindi con un linguaggio che non sia noioso. Qui lei il gioco non lo intende come qualcosa di sminuente rispetto al lavoro degli adulti, ma semplicemente come una modalità divertente di passare le informazioni. E lei dice che il passaggio da bambino a uomo è il prezzo che si paga per passare, da bambino a uomo è il passaggio da Dio a essere umano. Il prezzo che si paga, no? Per diventare adulto si rinuncia al proprio status di essere divino per diventare un essere umano, molto più imperfetto, molto più infelice. Lei dice che i bambini muoiono di fame mentale perché non viene data loro la possibilità di soddisfare gli stimoli intellettuali. Le madri hanno perso l'istinto di soddisfare i bisogni dei loro bambini e le tate sono soltanto delle creature tecniche. Si occupano solo dei loro bisogni materiali. Quindi la società si avvia alla degenerazione perché le madri hanno perduto l'istinto. Io adesso, per esempio, sento che, non ricordo esattamente come si chiama questo metodo, questo medico che per primo ha scoperto la relazione tra vaccini, ogni volta ce l'ho butto dentro, tra vaccini e autismo, non mi ricordo come si chiama il medico, che è stato ovviamente ragliato dal lavoro, sì. È stato fatto un'operazione, lo hanno screditato in tutti i modi, lui si appella alle madri. E di recente ho visto su YouTube proprio un'intervista a lui nella quale diceva: io chiedo alle madri che cerchino il loro istinto, che si ricordino che cos'è il loro istinto, che non seguano a pesce quello che dicono i pediatri piuttosto che i farmacisti. No? Perché le madri ce l'hanno, lo sanno per istinto, ma si vive in una società dove l'istinto non è considerato una buona cosa, perché non è razionale, fa parte dell'emisfero femminile, quindi per carità aborriamo solo la razionalità che è maschile, quindi patriarcale, no? Alimentano una paura. Lei dice che ovviamente alla pace si viene educati, che invece viene incrementata continuamente l'illusione di accumulare e di godere, che sono due illusioni secondo lei che non portano effettivamente allo sviluppo pieno. Viviamo, bellissimo questo, moralmente rattrappiti. Io qui ho proprio scritto paro paro quello che dice lei, perché usa le parole esatte. Viviamo moralmente rattrappiti, è vero, è vero. non abbiamo nessun senso, noi no, di quello che le nostre azioni, l'effetto che le nostre azioni possono avere sugli altri, sulla comunità. Ci viene insegnato ad essere esclusivamente egoisti, egocentrici, e ci lasciamo trascinare da idee false, perché se lo dice la massa, allora è vero. Lei dice: la pace dovrebbe essere garantita, e qui secondo me proprio si vede che non fu solamente un'educatrice, ma fu una statista. Ecco, mi veniva qui, adesso mi è tornato in mente, Rosa Luxemburg, la stessa cosa, lo stesso iter, lo vedremo la prossima volta di tutte queste grandi, no? Rosa Luxemburg viene in maniera molto riduttiva descritta come una politica, come una militante, ma in effetti fu un'economista, fu un'educatrice, fu anche lei a suo modo una sciamana e una donna che aveva una sua spiritualità. Tant'è vero che a un certo punto si oppone anche al comunismo, perché si rende conto che anche il marxismo non va bene. Rosa Luxemburg fu la prima a teorizzare che il consumismo avrebbe portato la società al tracollo, che cent'anni fa, 60 anni fa. La conosco per me. Ti piacerà. Rosa Luxemburg ti piacerà molto. Quindi lei dice, sentite, la pace dovrebbe essere garantita dall'equanime suddivisione dei beni e delle ricchezze. Politica pura, economia pura. L'essere umano, dominatore del mondo esterno, non è in grado di dominare la propria interiorità. Questo è anche un approccio sciamanico, spirituale. Non è un approccio religioso. Esiste una scienza della guerra, questo è straordinario, e lo disse anche Virginia Woolf più o meno nello stesso periodo. Esiste una scienza della guerra ufficiale nella nostra cultura, ma non esiste una scienza della pace. Stessa cosa che diceva Virginia Woolf. Si ritiene che la pace sia che cosa? La cessazione della guerra, cioè la pace esiste solo come mancanza di guerra. Definizione negativa. Esatto. Ossia lo stabilizzarsi dei vinti sotto il dominio dei vincitori, che implica comunque che c'è stata una guerra e che alla fine della guerra la pace è semplicemente che uno dei due soccombe all'altro e accetta le sue regole. La pace come inalterabile stato di giustizia e amore tra i popoli non è contemplata, non esiste. Sì, parlava Gandhi, basta. Questa cosa l'hanno scritta anche Luxemburg e Woolf, tutte e due. Saltando ad un altro argomento, quindi avrei forse dovuto metterlo vicino all'igiene, lei dice che la peste fu vinta quando divenne oggetto di indagine scientifica, quando si cominciò a capire, e abbiamo parlato prima, che viene dalla sporcizia, e se ne scoprirono le cause. Molto spesso io mi accorgo che Maria Montessori parla come parlerebbe Ipazia, o avrebbe parlato Ipazia, la grande scienziata astronoma del IV secolo d.C. che fu linciata, fu assassinata per volere di Cirillo, attualmente santo e padre della Chiesa. Ho la sensazione che usino proprio quasi le stesse parole, gli stessi modi di esprimersi. Anche Ipazia diceva che è la conoscenza, è lo studio, l'indagine scientifica che ci toglie dalla superstizione e che ci garantisce un sistema di vita sano, moralmente corretto, integrato. Ma tutte queste scienziate hanno avuto un background spirituale enorme. Cioè non sono delle scienziate aride, asettiche, come viene intesa la scienza oggi, che per carità la spiritualità non ci riguarda perché è una roba che c'entra solo con la religione. È proprio questo che le ha rese così grandi. Ipazia andava al tempio a pregare gli dei ellenici, della religione ellenica che lei seguiva, ad Alessandria d'Egitto. L'essere umano sviluppato, sano e forte può affrontare, questa è meravigliosa, può affrontare le malattie infettive senza esserne intaccato. Questo lo dice un medico, quindi questa è proprio la dichiarazione che le vaccinazioni possono anche scomparire dalla faccia della terra, perché qui parla praticamente di autoguarigione e di tenere in buono stato il sistema immunitario. C'è un passaggio in Mary Poppins nel secondo volume dove la bambina dice: io sono guarita 2 mesi fa dal morbillo. mi sembra che sia nel primo capitolo, quando Mary Poppins ritorna, nel secondo volume, quindi abbiamo storicamente, siccome la Travers scrive una cosa che probabilmente accadeva in quell'epoca, abbiamo la dimostrazione storica che dal morbillo si guariva senza vaccini. E la Montessori dice anche lei, quando l'essere umano ha un sistema è sano, forte, ben sviluppato, ha un sistema immunitario che gli permette di guarire dalle malattie infettive o di non esserne intaccato proprio. Lo scopo, dice lei, è mantenere la salute, non curare la malattia. Stesso discorso di Belarda, identico, l'abbiamo fatto la volta scorsa. Vedete quanti punti in comune ci sono e come è importante studiare queste donne in maniera sinottica, perché si rafforzano l'una con l'altra. Invece non lo fa mai nessuno questo di mettere a confronto, queste vengono sempre trattate separatamente. Lei dice che il bambino è un essere indipendente e può essere il nostro salvatore. Dobbiamo considerarlo un messia che può salvare la razza umana. Se lo lasciamo fare, se lo lasciamo libero di esprimersi e di fare quello che sente. L'embrione tende solo a raggiungere la maturità, questo in qualunque essere vivente, anche nelle piante. Il bambino tende a incarnare la sua individualità fino alla pubertà, quindi così come il seme, il germe, mette le radici e poi si sviluppa, così il bambino, che è un embrione, tende ad incarnare la sua individualità, ossia ad occupare tutto lo spazio energetico che si presume dovrà avere da adulto e fino alla pubertà. Questa è l'unica cosa che deve fare, deve crescere e ricordare e riportare in manifestazione tutto quello che gli viene dalle memorie precedenti. La sua è una memoria che gli risveglia in modo intuitivo, questo lei lo dice continuamente. Vuoi andare a fare la pipì? No, ho avuto una riflessione. Potresti scrivere tu un libro? Sì. Con tutte le informazioni? Sì, sì, ma io faccio il dispense, infatti, delle lezioni, perché non voglio che questo lavoro vada sprecato, perché è stato un lavoro enorme che abbiamo fatto, e quindi farò le dispense in PDF e poi le distribuirò a chi le desidera. Me l'hanno chiesto in Brasile, comunque c'è la mia amica in Brasile che sta facendo, quella che mi ha organizzato le conferenze, là in Mato Grosso Sul, che sta facendo la tesi, meraviglioso, i cerchi di donne come strumento politico, mi ha chiesto di poter ascoltare, anche se in italiano, queste lezioni perché vuole inserire cose nella sua tesi, quindi in Italia come al solito si fa fatica, ma per fortuna ci sono dei paesi dove la cosa è meno faticosa. Ecco. Osservando il bambino ci rendiamo conto che esiste un continuo conflitto tra adulto cieco e bambino veggente. Ma l'adulto vince perché è più forte, fisicamente più forte, più violento. Vince il bambino e in lui restano, quindi che cosa si inculca nel bambino? Il carattere della pace dopo la guerra, ossia l'accettazione della legge del dominatore. E questa cosa lo marchia fin da piccolino. Cioè chi fa le leggi è sempre più violento e più forte, quello che ha più muscoli e la voce più grossa. Io mi ricordo che da bambina tantissime volte sono stata terribilmente frustrata perché volevo cercare di dire la mia e mi veniva impedito. E certe volte mi veniva impedito a suono di sberle anche. Non mi veniva permesso di parlare. Io avevo dentro di me la mia verità, non so se a voi è successo qualche volta, se vi ricordate, no? A te sicuramente sì, di avere la tua da dire che non ti fosse permesso dirla, perché i bambini tanto sono stupidi, no? Mentre tu avevi l'idea molto chiara di che cosa, ma sicuramente anche a voi, solo che magari vi è andato talmente tante volte che neanche ve ne ricordo di avere introiettato il fatto che non sarei stata ascoltata da Dio. Non ci provavi neanche. E tu, Cri? Sì, anche io. Anche tu. Quindi, ecco, l'educazione nella famiglia e nella scuola non è nient'altro che la lotta tra l'adulto e il bambino, e questo è tristissimo, dove l'adulto è il più forte e vince esclusivamente per forza di muscoli e perché grida di più. E il bambino comincia a nascondere la sua intelligenza e le sue potenzialità per non spiacere all'adulto. Questo era quello che vi dicevo prima. Qui, secondo me, lei ha proprio fatto un salto di qualità. E da educatrice e da scienziata si è trasformata in maestra illuminata. È proprio una maestra in tutti i sensi, con la maiuscola. cioè, se voi immaginate che questo lo abbia scritto Yogananda, per esempio, o non so, suggeritemi qualunque nome di un quadro, cioè, sì, assolutamente. L'uomo costruisce un ambiente sempre più lontano dalla natura e sempre più inadatto al bambino, questo lo dice anche Mistral. La guerra nasce da questa deviazione nel bambino a cui viene impedito di essere divino. La lotta del bambino diventa quella dell'adulto che poi diviene guerra, cioè il bambino addestrato a combattere o a subire diviene l'adulto addestrato a combattere o a subire e quindi la civiltà della guerra. Il bambino che non ha imparato a fare da solo e a guidare le sue azioni con la sua volontà si riscontra perché diventa un adulto incapace di vivere responsabilmente. La disciplina è sinonimo di schiavitù, la disciplina come intende lei. Il bambino si paragona al padre, rattrappito nei suoi impulsi, cioè il bambino prende a modello il papà, ma un papà già fuorviato, o la bambina, la mamma, una mamma già con le ali tappate, perché quindi il padre era attrappito nei suoi impulsi, ma che il bimbo, la bimba, ritiene perfetto. Quindi comincia a sentirsi in difetto perché ritiene che la normalità sia il genitore castrato, invece di sentirsi lui quello normale. Effettivamente è tutto rovesciato, tutto ribaltato. I tentativi del bambino di sapere cos'è la giustizia vengono bloccati. Viene punito se aiuta un compagno in difficoltà, se suggerisce a un bambino in difficoltà, mentre viene premiato se lo denuncia. Questo è vero. Io quante volte sono finita in punizione perché magari uscivo dal banco per aiutare qualcuno che non ce la faceva. Il passaggio di anno in anno avviene attraverso la competizione. E anche questo è l'anticamera della guerra, la competizione. Così il bambino diviene un adulto senza carità né empatia e viene educato alla guerra. Se l'uomo fosse educato in modo sano, semplicemente non potrebbe fare la guerra. Non ce l'avrebbe proprio neanche lontanamente possibile quello di usare un'arma per ammazzare un altro essere vivente. Questo lo diceva anche Rosa Luxemburg, lo vedremo. Gli uomini sono passivi e vengono trascinati qua e là come foglie morte. Si alleano oggi a un nemico, domani a un altro. Oggi si va a distruggere la civiltà perché qualcuno lo comanda, dice lei. Cioè, queste parole sono molto simili a quelle di Rosa Luxemburg, a quelle di Virginia Woolf. Arriva un momento in cui tutte queste grandi donne vanno oltre. Rosa Luxemburg era un'economista, questa era un'educatrice, Virginia Woolf era una scrittrice, ma arriva un momento in cui vanno oltre, diventano maestre, quando cominciano a contemplare un'educazione globale, olistica, in tutte le sue sfaccettature. Perché possedere intelligenza se non per trovare una soluzione che non sia la guerra, dice lei? Cioè, cerchiamo un modo diverso di gestire i conflitti, se possiamo usare un'espressione orribile coniata oggi, la gestione dei conflitti, a parte che probabilmente secondo la visione originale di Maria Montessori non dovrebbe neanche esistere il conflitto. Le ricchezze dovrebbero essere accessibili a tutti liberamente e il bambino deve essere lasciato lavorare con le sue mani, perché il bambino cerca il lavoro e l'indipendenza. Avete fatto caso che i bambini fino a 3 anni vogliono aiutare la mamma a lavare i piatti, a cucinare la torta, a spazzare per terra, a rifare i letti? Gli viene istintivo, dopo disimparano, quando cominciano a frequentare l'asilo, e lì comincia la suddivisione tra quello che devono fare i maschi e quello che devono fare le femmine, e quindi smette il bambino. Però lei dice che l'istinto del bambino è quello di lavorare, che trova soddisfazione e vuole essere indipendente. Il bambino vuole fare da solo, vuole legarsi il bavagliolo da solo, se glielo leghi tu da nome, è vero. Yes, mio fratello si voleva mettere il cappotto da solo, lui se lo metteva a rovescio con i bottoni di dietro, ma guai, perché doveva fare da solo. Beh, mio nipotino lo chiamavamo faccio mi, perché diceva sempre faccio mi. Chi? Mio nipotino. Ecco. Chiamavamo faccio mi. Sì, cioè faccio mi, mamma, faccio mi. Prima che cominciava ad andare all'asilo, faccio mi. Ecco, vedi? Gli esseri umani devono cominciare a sentirsi un'unica grande nazione. Ogni separazione porta alla guerra. L'impoverimento di un popolo non porta all'arricchimento di un altro popolo. Un popolo distrutto dalla guerra è una malattia per l'umanità intera E questa è la globalizzazione in ottica femminile, secondo me, la visione femminile della globalizzazione, cioè non una globalizzazione finanziaria come quella che sta avvenendo adesso, ma una globalizzazione spirituale in realtà, dove tutti gli esseri umani sono in armonia tra di loro, dove non esiste la guerra perché nessuno vince o perde. La guerra è una perdita per tutti. Questo è lo stesso identico discorso che faceva Rosa Luxemburg. Incredibile, lo vedrete, lo vedremo. Tutti insieme formiamo un unico organismo, dice lei. L'essere umano deve essere educato alla sua grandezza. Deve essere educato alla sua grandezza. In realtà io non so voi, ma a me mi veniva sempre insegnato stare schiscia. Stare schiscia si dice, oppure non lodarti chi ti credi di essere, sbassa le regge, si dice, sì, no, sì. No, ecco. Stare schiscia si dice in Lombardia, stare bassa. È vero, ma anche qua a Brescia si dice così, sì, sì, è più o meno. Esiste un solo mondo unito dell'umanità. Le nazioni e le leggi separate non hanno più senso, anche se alcuni faziosi oggi hanno travisato o manipolato questo concetto per favorire i loro interessi, secondo me, è l'elite globale, che in realtà non è globale per niente, cioè è globale solo per le sue saccocce. Da un lato, ecco, lei fa un discorso interessantissimo, perché dice, da un lato il nazionalismo, il sovranismo, chiamiamolo così oggi, impedisce la formazione di un'unica nazione umana consapevole, di un'unica umanità, libera di muoversi, dove ci sia libertà di apprendimento e di movimento. Dall'altro però l'internazionalismo economico, cioè l'esatto opposto del nazionalismo, tiene conto solo dei desideri e delle necessità di un'elite, di una parte dell'umanità, perché i beni non vengono distribuiti in maniera uniforme in base alle necessità. Quindi l'elite dominante, che si avvantaggia dei beni e tende ad un'unione, quindi a un internazionalismo basato sulla distruzione della parte più debole dell'umanità o sul suo sfruttamento. Lei dice scegliere tra queste due correnti sarebbe come scegliere tra la peste e il colera. Perfetto. D'altronde, se voi oggi ci pensate, come facciamo a dire se sia giusto il sovranismo o se sia giusta l'Europa? A me sembra effettivamente che abbiano entrambi dei grossi difetti, non riesco a pensare che una delle due cose sia buona e l'altra no. Mi sembra che abbiano delle tare enormi tutte e due, perché sono gestiti questi due concetti in ottica patriarcale. Gli esseri umani non devono lavorare solo per soddisfare i loro bisogni individuali, ma per uno scopo più alto, collettivo, altrimenti non sono felici. Bisogna favorire lo sviluppo spirituale di bambini e adolescenti per poter risolvere i problemi sociali, permettendo loro di tirar fuori finalmente tutto il potenziale nascosto, bloccato dall'educazione. Ecco. Secondo lei il bambino è colei o colui che ha accesso a una maggior percentuale di cervello. Questo lo stanno dimostrando la PNR, per esempio, le moderne discipline autoevolutive, la neuropsicoendocrinologia, cioè ci stanno dimostrando che noi usiamo solo una piccola percentuale del nostro cervello, quella che ci hanno addestrati a usare, come i topolini sulla ruota, mentre i bambini che non hanno ancora ricevuto, fino a quando non cominciano a ricevere i limiti, hanno accesso a molte più, a una parte molto più ampia. Disciplina, ordine, autocontrollo, dice lei, si sviluppano nel bambino spirituale come espressione di libertà perfetta. Questo pare un controsenso, ma in realtà lei dice che il bambino si sente libero di obbedire, libero di essere disciplinato, ordinato e controllato, perché si rende conto che in quel modo sta bene lui e sta bene gli altri, non perché gli venga imposto con la violenza o con le punizioni. Quindi è un suo stato naturale, che è un po' come lo stato meditativo, secondo me. Il bambino, dice, non è un vuoto da riempire, è un embrione con già tutte le capacità psichiche e un sottile istinto molto forte che deve essere lasciato libero di svilupparsi. Lei dice, la natura ha in orrore il vuoto. Il vuoto subito si riempie di qualcosa, l'horror vacui si chiamano, non esiste in natura il vuoto. Così il vuoto dell'anima che viene creato artificialmente nell'umanità si riempie di cose dannose. Noi offriamo ai bambini istruzione e igiene e chiamiamo queste cose educazione. Queste cose qui lei le scrive nella seconda parte della sua vita, quindi ha già fatto un pezzo in più. lei comincia con i bambini poveri di Roma, offrendo prima di tutto alimentazione, igiene, ma poi man mano che si evolve anche lei e che comincia a studiare la teosofia, si rende conto che c'è tutta la parte spirituale che probabilmente all'inizio o non era compresa o era compresa in forma di intuizione. Dopo invece lei riesce a teorizzarla in forma scritta, i suoi discorsi, le sue conferenze sono comunque qualcosa di scritto. Perché riesce a teorizzarla? Perché studia la teosofia, quindi inserisce a livello proprio accademico la parte spirituale che prima era solo intuitiva. I bambini oggi invece vengono considerati esclusivamente dal punto di vista fisico e materiale. Se invece i bambini sono liberi di muoversi istintivamente, chiedono di lavorare e di collaborare, gli piace ai bambini. E questo permette loro di svilupparsi armoniosamente nel carattere. Se i bambini fanno capriccio, piangono, è perché non sono liberi e non sono sani. Allora sviluppano il desiderio di possesso che li fa sentire sicuri. Quindi secondo lei il senso di possesso non è naturale nei bambini? Io questo non lo so sinceramente, a me sembra che io e mio sia la prima cosa che i bambini imparano, però può anche darsi che lo imparino in un mondo già malato, che è quello dove il possesso è la prima regola, no? Che magari i bambini cresciuti, non so, bisognerebbe vedere nelle società native che non hanno mai avuto contatto con la nostra cultura, se i bambini istintivamente condividono, no, le loro cose oppure se tendono a... Questo io non lo so, però se lo dice lei probabilmente è vero. I bambini vengono trattati come esseri incompleti, mentre sono una parte compiuta dell'umanità in cui bisognerebbe fondare un partito addirittura per difendere i loro interessi in Parlamento, dice, cioè dovrebbero avere un partito di bambini, fare leggi, creare proprio una parte della società e della civiltà a misura di bambino, non soltanto i banchi e le sedie di scuola, ma perché dice altrimenti i bambini vivono sempre a misura di adulti, non hanno niente che sia adeguato alla loro stazza, alla loro misura, e quindi si sentono inadeguati perché è tutto sempre troppo grande per loro. Solo così l'umanità migliorerà e si arriverà alla pace. Cioè, quello che lei dice è che per arrivare alla pace bisogna educare i bambini alla pace. Quindi capite bene perché non ci siano scuole Montessori in Italia, perché l'industria della guerra è quella della pace, no? E anche l'industria degli ansiolitici. Quindi se a un certo punto gli adulti hanno bisogno di consumare sostanze per poter rimanere tranquilli, c'è qualcuno che si arricchisce. I bambini non devono essere guidati né protetti, ma bisogna né bisogna essere senza riguardo ai loro bisogni, quindi bisogna lasciarli liberi, perché sono anime incarnate in piccoli corpi, ma nello stesso tempo essere attenti ai loro bisogni. Lei dice che i bambini lasciati liberi con il suo metodo spesso guariscono anche da disturbi digestivi e anemie che provengono dal non sentirsi liberi nel loro ambiente. L'infanzia ci dice che il lavoro non è un sacrificio, abbiamo quasi terminato con Montessori, il lavoro non è un sacrificio, i bambini amano spontaneamente lavorare perché il lavoro è la via spirituale e la guarigione dell'essere umano, questo lo dice anche Tagore e questo lo dice anche, come si chiama, quello che ha scritto il profeta? Khalil Gibran, cioè il lavoro è spiritualità in azione in realtà. Certo, se è un lavoro scelto col cuore, non certo un lavoro per arrivare a fine mese. L'amore è la via spirituale e la guarigione dell'essere umano. L'amore che non è attaccamento, la disciplina che non è sottomissione. Tutto questo i bambini ce l'hanno istintivamente. L'amore che non è attaccamento, questo è quello che dicevamo all'inizio, no? Queste donne che nel compiere la loro missione e arrivare al loro totale risveglio, alla loro totale bubbilità, sviluppano un amore totale, senza attaccamento, non sono nemmeno attaccate al loro prestigio, alla loro fama, al loro denaro, nemmeno alla loro vita fisica. Quindi a un certo punto mollano e vanno. Questo è il punto, l'amore che non è attaccamento. Devo sottolineare, mi piace molto. La tendenza al possesso e al potere è provocata per deviare l'uomo. L'amore dell'ambiente invece è un amore normale, sano, il segreto che porta alla conoscenza e all'illuminazione, perché è amore in azione, l'amore dell'ambiente. Laddove esiste un amore spontaneo e spirituale, la gentilezza e l'educazione sono spontanei. L'amore viene da una base di salute morale, non può essere predicato né inculcato. Immaginate quanto faceva piacere Greti questa roba. La vita crea la vita e la mantiene. Gli animali sono creatori e conservatori della terra, questo è l'animalismo puro. Producono ossigeno, humus e altre sostanze che mantengono liquidi gli oceani e fertile la terra. Gli animali vivono in simbiosi con la terra e sono i guardiani della terra. Io, lei dice, non vedo bambini o bambine deboli, corrucciati, bisognosi di essere guidati o guidati. Io vedo bambine e bambini dritti, forti e con le braccia tese a chiamare l'umanità per guidarla. E qui terminiamo con Maria Montessori. Se volete facciamo una pausa. Seconda parte. Quindi parliamo di Gabriela Mistral. Gabriela Mistral comincia come maestra rural, era la qualifica con cui lei si presentò e con cui venivano qualificate queste maestrine che insegnavano ai campesinos, nei pueblos, e che praticamente imparavano da sole, non avevano titoli di studio. Lei in realtà andava, il suo primo lavoro fu di andare a insegnare a leggere ai minatori, quindi partì proprio dalla base, diciamo che le maestre rurali prendevano tutta quella parte di istruzione che non veniva espletata dalle maestre tedesche, che in Cile c'erano tantissimi tedeschi, perché erano quelli scappati dal nazismo qua, no? Per cui l'istruzione ufficiale era quella tedesca, quindi le famiglie ricche, borghesi, aristocratiche, cilene, mandavano i figli nelle scuole tedesche. E poi c'era tutta invece la massa dei campesini, della gente povera, che venivano magari istruiti da queste maestre rurali che spesso non erano pagate, spesso venivano pagate in natura. Quindi lei era povera, femmina e indigena. Lei dice di sé questo, che era povera, femmina e indigena, che quindi partì dal gradino più basso. In più lei diceva: tengo il rostro indigena, cioè le sue fattezze erano proprio, sì, neanche dice cara, dice proprio rostro, sì, quindi sì. Non viso, proprio muso, rostro, e quello degli animali, indigena, cioè col naso famoso, aveva proprio la faccia da nativa, non aveva la faccia da meticcia tendente al bianco. Quindi partì veramente dalla situazione più disagiata e più orfana di padre. Fu una instancabile difensora dei diritti dei popoli nativi e dell'identità nativa dell'America Latina, molto prima di Che Guevara, un bel po' prima. E nella sua vita fece due grandi lotte. Una, quella di ottenere l'istruzione pubblica obbligatoria in Cile per le bambine, che non era contemplata. E la seconda, per l'uguaglianza dei diritti delle donne. Questi sono stati i suoi grandi cavalli di battaglia. Le fu dato il Nobel nel 1945 per le sue poesie, ma anche per i suoi meriti nell'aver proposto e incarnato un nuovo modo di educare e rispettare l'infanzia, le donne e i popoli nativi precoloniali. Queste sono le motivazioni ufficiali. La sua poesia in realtà è sciamanica, quindi è attivismo, secondo me, è attivismo politico in forma poetica, perché non sono... sono potenti, sono quasi come fossero delle preghiere, le sue poesie andrebbero davvero lette come se fossero un'invocazione agli spiriti della terra piuttosto che alle montagne. È sempre presente, molto forte in quello che lei scrive, la sua cultura nativa, le sue radici. Lei viaggiò per tutto il mondo portandosi un pugno di terra delle Ande, dove lei nacque, nella precordigliera, in un vasetto. E lei aveva sempre questa terra sotto mano. Lei vince il Nobel perché valorizza il linguaggio dell'infanzia nella tradizione dei campesinos e degli indigeni. Quindi ancora una volta la valorizzazione del linguaggio dell'infanzia, come Montessori. Fu insegnante femminista e visionaria. Visionaria non vuol dire una sconvolta, visionaria vuol dire una che aveva una visione, come De Garda, come Montessori, come tutte le, come Marie Curie, come Rosa Luxemburg, sono tutte donne che hanno molto chiara una visione che secondo me è un risveglio, è un ricordo delle società matriarcali neolitiche, perché si assomigliano tutte. Se si assomigliano tutte vuol dire che partono da una base comune, quindi da un ricordo comune. La pedagogia di Gabriela, ecco, era azione in poesia o poesia in azione. Non erano cosette leziose, canzoncine, filastrocche. Era un messaggio molto forte di riscatto del proprio orgoglio nativo. Infatti è difficilissimo riuscire a tradurre, secondo me solo i cileni capiscono, o i sudamericani capiscono le poesie di Gabriela Mistral, perché ci sono parole che sono intraducibili, anche per chi parla bene lo spagnolo. Il padre la abbandonò quando aveva 3 anni e lei crebbe con la madre, che lei amava teneramente. Io ho letto nella sua casa, che adesso è trasformata in museo, ho letto le cose che lei scriveva per la mamma, era di una delicatezza, di una dolcezza, perché quella mamma doveva davvero essere una persona straordinaria. La zia e la sorella, che era maestra rurale a sua volta, quindi visse in un matriarcato, in una situazione di un cerchio di donne. La sua casa era un cerchio di donne. Ma in Cile la vita capita, cioè quello che conosco un ragazzo che viene da una situazione del genere è cileno. Sì. Quindi a quanto pare magari ogni tanto c'erano delle situazioni in cui effettivamente in Cile c'è. Sì, anch'io ho conosciuto tantissime situazioni familiari in cui il padre era assente ed era la madre della figura. Adesso qualche era stato autorizzato il divorzio. Beh, adesso con quello che sta succedendo non so se non abrogheranno la legge, però quando sono stata io la prima volta il divorzio era da poco diventato legale, perché tutte le donne stavano divorziando perché erano tutte quante le prendevano le botte dai mariti, no? Per cui c'era un'inflazione di madri soltere che erano, quindi avevano i figli, la madre con i figli a carico. Ecco, lei è alunna di sua sorella, quindi la sua prima maestra fu la sorella, che era maestra rurale, perché nelle altre scuole non l'accettavano, la consideravano ritardata come la Montessori. Quindi nessuno accettava di istruirla, tranne sua sorella. E quindi lei prima è alunna e poi è aiutante di questa sorella. Ed è alla scuola della sorella che lei comincia a studiare e che comincia ad amare questo mestiere della maestra rurale. Quindi lo stato di maestra rurale per lei è strettamente intrecciato a quello della famiglia di donne e della sorellanza. Lei ebbe un'infanzia felice, nonostante questa situazione apparentemente disagiata, e lei dice che non si soffrì mai la fame. In casa sua, nonostante, io l'ho vista la sua casa, erano veramente 2 stanze, una capanna di 2 stanze, una per dormire e una per mangiare, di argilla, di fango, c'è proprio niente, però nonostante questo lei dice che non ho mai sofferto la fame e che sono stata molto felice perché ero adesso in montagna, lei andava a parlare con la natura, era totalmente una sciamana. Fu accusata, ecco, dalla preside della prima elementare di aver rubato i quaderni che doveva distribuire. E i bambini la presero molto in giro, lei soffrì tantissimo per questa cosa, perché fu accusata ingiustamente, e la sorella la ritirò da scuola. E quindi non ebbe altra maestra poi, sua sorella. Si scontrò con l'establishment cattolico cileno. Il prete che dirigeva la scuola normale della Serena, che era città, il capoluogo del Valle dell'Elqui, del Norte Chico, dove lei visse, avendo letto le sue poesie, le prime poesie che lei pubblicò, la giudicava pagana, socialista e femminista, per cui i cattolici non la volevano. E non le permise di frequentare la scuola per potersi diplomare come maestra. In più, lei era meticcia e povera, quindi aveva tutte queste aggravanti. Quindi dovette fare da sé. E questa fu la sua fortuna, probabilmente, perché sviluppò una pedagogia naturale. La parola somiglia un po' a quella di Sabina Spierhein, perché la Spierhein sviluppò una psicologia psicopatologia dell'infanzia e lei invece una pedagogia naturale che si occupava dei diritti dell'infanzia, e anche lei lo fece osservando i bambini. Tutto sommato il fatto di essere state scacciate, derise, ha permesso loro veramente di poter uscire dal rischio del dogma e di andare direttamente alla fonte, al nucleo dell'insegnamento, che era osservare i bambini. È stata la loro fortuna, tutto sommato. A 15 anni comincia a lavorare anche lei come maestra rurale e a collaborare con periodici locali. Sto pensando così. Effettivamente anche nello sciamanesimo non si fa. Quando ti sposti dalla cosa, quindi loro venivano cacciate, non mi sembra che la strada almeno fosse stata accusata di furto, di sì. quando ti sposti da una cosa, riesci ad avere un focus da esterno, a osservare, sì. E quindi puoi capirla, quindi sì. Può essere un po' magari cioè, sicuramente in mente, non c'è il sciamanico lì. Sicuramente, sì. Sì, uscire dall'establishment, uscire dal dogma, sì, indubbiamente. I problemi con la Chiesa cominciarono quando pubblicò nel periodico dell'Elchi, Elchi è il fiume che dà il nome al Valle dell'Elchi ed è una delle aree, delle zone più sacre del Cile, se qualcuno di voi legge o ha letto Isabella Allende, lei ne parla spesso nei suoi libri del Valle dell'Elchi, io la prima volta che ne ho sentito è stato proprio leggendo i libri di Isabella Allende che io adoro e sono andata nel Valle dell'Elchi perché avevo letto il libro e non conoscevo Gabriela Mistral, l'ho incontrata lì. Non sapevo niente, quindi non si sa niente di lei. Quindi pubblicò nel periodico dell'Elchi un articolo sull'istruzione della donna. E, ho segnato in rosso alcune parti che ho preso da Antenate la visione delle donne, da quello che ho scritto io, di lei scritto in prima persona. Le ho prese paro paro e ve le leggo così come sono venute a me. Sono cose che io ho canalizzato per scrivere il libro. La Chiesa mi aveva già inquisita e giudicata colpevole, dice lei, all'uscita di uno scritto sull'istruzione alle donne, poiché appena 17enne avevo scritto che la donna istruita smette di essere una fanatica ridicola, una sposa monotona che per mantenere l'amore coniugale non può contare su altro che sulla sua bellezza fisica. Questo lo scrisse lei a 17 anni. Avevo scritto che istruire la donna la rende degna, la solleva dalla umiliante vita domestica, dall'essere vittima di ripugnanti matrimoni combinati e dalla vendita del suo onore. Quindi lei trova che l'istruzione serva anche a salvare la donna da matrimoni combinati. Se vi ricordate quando abbiamo parlato di Hildegarda e di tante donne come lei, sceglievano la via del monastero per non doversi sposare, per poter studiare. Vi ricordate anche Santa Brigida di Kildare, stessa cosa. Beh, comunque. Parecchi altre antenate hanno parlato della necessità di istruirsi per emanciparsi. Certo, sì, Mary Wollstonecraft, tantissime, indubbiamente. Ma io credo però che la Mistral, nei suoi libri non ho trovato, per esempio, Mary Wollstonecraft, non ho trovato... Sì, magari non andrà nel no, io credo che fosse proprio una memoria, un ricordo. Perché lei è stata la prima in Sud America che ne ha parlato di questo, infatti è stata cacciata via. Questo scrissi molto prima che fosse creata la parola femminismo. Allora le donne del popolo erano considerate solo come forza lavoro, al pari del bestiame. A 21 anni comincia a percorrere tutto il Cile visitando le scuole per ragazze. In un'epoca in cui nessuno difende indigeni e donne, lei li difende. E scrive, nei miei articoli sul Foglio Locale avevo difeso la riforma agraria, l'istruzione obbligatoria, l'uguaglianza di salario tra l'uomo e la donna. Quindi ancora una volta passiamo dall'educazione alla politica, perché difendere la riforma agraria è qualcosa che non ha a che vedere con l'educazione, bensì con l'economia, politica e ridistribuzione dei beni. Quindi ancora una volta si va lì a finire o a iniziare. Nel liceo della Serena, la città La Serena è la capitale del Norte Chico, fa in modo che vengano ammesse anche ragazze del popolo. E questo perché i licei che aveva visitato lei erano i licei delle ragazze ricche. Però probabilmente, esattamente come in Inghilterra o nell'America vittoriana, veniva loro insegnato a ricamare piuttosto che a preparare la tavola, piuttosto che, cioè non era vera istruzione quella che veniva impartita, perché non dovevano destabilizzare il patriarcato con la loro istruzione. Quindi dovevano comunque, sì, si dava un'infarinatura, non so se avete visto Mona Lisa Smile, per esempio, un film. Mona Lisa Smile con Julia Roberts, che parla di queste scuole americane dove praticamente lei va credendo di andare a insegnare storia dell'arte alle future avvocate, alle future notaie, alle future statiste, invece si ritrova a insegnare alle mogli dei futuri notaie che dovevano imparare come apparecchiare la tavola, come no. E infatti si indigna, anche quello è un film carino da vedere. Ecco. Fa in modo che vengano ammesse anche le ragazze del popolo nel liceo della Serena e questo le provoca il primo scontro con la direttrice tedesca, perché in Cile all'epoca erano le maestre tedesche quelle più considerate, insegnavano ai bambini la cultura mitteleuropea. Mentre lei dice l'apprendimento delle bambine e dei bambini deve passare attraverso la natura e il campo per lei è il campo coltivato. dove, quindi dove quello che dà la coseccia, cosette, coseccia credo che sia il cibo, no? Il cibo dell'orto, la coseccia. Il raccolto, sì. Affinché non rinneghino la loro origine indigena e contadina. Lei è la prima a battere sull'orgoglio, no? Questo orgoglio indigeno e contadino, perché fino a prima di lei era considerato uno sminuirsi, un essere inferiori. Lei invece dice no, è la nostra ricchezza, è la nostra forza, noi dobbiamo portare in palmo di mano questo nostro stato, dobbiamo riconoscerlo e onorarlo. Decide di fare la maestra rurale poi a Temuco, che è la capitale della Araucanía, quindi un bel po' distante rispetto a dove era, dal norte Chico va nel sur Chico, quindi sono una notte di viaggio in pullman. Io ci ho messo una notte di viaggio per arrivare più o meno. E lì conosce Pablo Neruda nel liceo di Temuco. Ancora ragazzina, dice, insegnavo a leggere ai lavoratori. Poi divenne insegnante nelle scuole femminili, poi preside del liceo di Punta Arenas, che è la città principale della Patagonia, nel sur grande di Cile, e poi nel sur Chico, in Araucanía, a Temuco, dove venne a contatto col popolo Mapuche e mi appassionai alla sua resistenza contro ogni invasione. I Mapuche sono ancora oggi combattono, non sono mica stati ancora sconfitti, sono scappati sulle montagne piuttosto, ma non sono stati sconfitti. È l'unico popolo sudamericano che ancora esiste con una sua identità etnica, che non è stato ufficialmente colonizzato. Nessuno è sopravvissuto, neanche i Quechua del Perù, solo i Mapuche. Sono sempre stati dei grandissimi guerrieri, però sono rimasti sulle montagne fino alla fine di Pinochet, praticamente. Adesso forse stanno tornando a scappare. Quando sono stata io negli ultimi due viaggi, stavano cominciando a scendere dalle montagne e a riorganizzarsi in comunità Mapuche fuori dalle grandi città, e io, è in questo modo che io ho potuto conoscere la Maci Rosa Quiñenao, la loro leader spirituale, che mi ha raccontato tutta questa storia, mi ha spiegato. E lì conobbi il giovane Neftalí Reyes, che poi diventerà Pablo Neruda. A 33 anni parte per il Messico, perché viene invitata da Vasconcelos, che era il ministro dell'istruzione, era un uomo illuminato in Messico, perché la invita a fare una riforma totale dell'educazione in Messico. Parte per inviare, una volta in Messico, prende un calesse, una carrozza, proprio, e si gira tutte le comunità, la stessa cosa che fece Gandhi in India, per conoscere la realtà dei campesinos. Visita tutte le realtà rurali e fu in Messico che lei trovò finalmente lo spazio per estrinsecare tutto il suo potenziale, dare voce a tutta questa cosa che lei aveva dentro, il suo potenziale di educatrice. In Messico, in contemporanea, c'era Frida Kahlo. Questa è una cosa interessante, perché la rivoluzione messicana aveva eletto l'arte a espressione politica e sociale. Quindi l'arte era ufficialmente diventata l'espressione della rivoluzione politica. Da sempre sono gli artisti, i poeti, io adesso sono appena stata in Bulgaria, il movimento di resistenza contro la dittatura sovietica, erano tutti poeti, perché erano poeti e statisti. Quindi in realtà forse bisogna cambiare il modo in cui vediamo la poesia, cioè per vederla quasi come se fossero quasi come delle canzoni, cioè un modo molto più veloce, molto più scarno di dire le cose in maniera che vengano anche ricordate, cioè, perché la prosa è difficile ricordarla, ma la poesia diventa quasi come se fossero canti sciamanici, no? Quindi li puoi tramandare anche in forma verbale. E gli venivano fatti i grandi murales politici, quindi con tutte quelle con immagini in cui il popolo si ribellava agli Yankee, quindi agli americani, si ribellava a ogni forma di colonizzazione, perché anche se stavano combattendo gli Yankee dal punto di vista politico per liberarsi dal dominio politico, poi alla fine è successo proprio quello che è successo in India, dal punto di vista economico sono rimasti. Cioè hanno avuto una libertà di facciata, esattamente come in India, ma i padroni del Messico dal punto di vista economico sono stati e sono tuttora gli americani, esattamente come i padroni dell'India sono rimasti gli inglesi. Frida Kahlo visse in quell'epoca. Quando Gabriele arrivò in Messico, Frida aveva 25 anni ed era già nel pieno della sua attività pittorica. perché si era iscritta a 18 anni al gruppo Cachucas, cioè studenti che sostenevano Vasconcelos, esattamente il ministro della pubblica istruzione che aveva invitato Gabriela. Ancora una volta i destini di queste grandi donne si intrecciano, si incrociano, per me è entusiasmante, io lo vedo proprio piano piano, più andiamo avanti, più vedo proprio come un tessuto che si forma, con le storie parallele di queste donne che come una trama in ordito stanno riformando il grande tessuto distrutto, no? del sapere femminile. Sì, è come se ci fosse, ma in qualche modo andando a richiamarle lo ritessi. Brava. Cioè, rinsalvo. Brava, esattamente. Stiamo perché c'è stato, ma siccome nessuno mai ha osservato questo disegno di tessitura, in un qualche modo la parte si è della... Sì, ma no, forse non è proprio mai neanche definito. Definito, no. Perché comunque c'è... scusa, un messaggio. Comunque, bene o male, si dice che tante volte è negli occhi che guarda, no? Il disegno. Quindi... è proprio così. Esattamente, la realtà sorge nel momento in cui la guardi, ci vuole sempre un osservatore. Quindi forse il nostro compito qui adesso è proprio questo, di vederlo e vedendolo renderlo reale, anche se siamo in pochi. Beh, Sara è qui con noi, comunque io la sento. Sono sicura che era dispiaciutissima di non poterci essere e che se non è venuta doveva proprio avere delle grosse motivazioni. Quindi, Frida si dipingeva per esempio in abiti popolari, con gli abiti popolari messicani, per scelta politica. Lo faceva perché lei sosteneva esattamente come la Mistral la dignità dell'essere nativi. Allora, la Mistral fondò biblioteche rurali e biblioteche per le donne, con libri di lettura per donne, perché le donne potessero avere accesso alla lettura, e indice letture pubbliche organizzate nelle comunità rurali per dare impulso alla necessità di imparare a leggere. Quindi fece un'opera veramente da buttarsi carponi e ringraziarla. Ecco, lei dice fece stampare il primo libro di lettura per donne contenente solo opere latinoamericane, perché probabilmente esistevano, ma erano tutte opere portate dall'Europa. Invece c'erano arti, cioè se io penso per esempio a Violetta Parra, Violetta Parra è stata una... Forse dovresti fare la tesina su di lei, non so perché mi viene questa cosa. È stata una cantatrice cilena che fu chiamata in Europa anche per fare conferenze, e lei usa il canto popolare per fare politica. E sì, avevo pensato a lei o anche a... L'altra, sì, quella che avevi portato quella volta nella... No, però forse dovevi risparmiartela per questa cosa. Perché loro sono donne comunque che hanno capito che la voce politica può essere data usando il linguaggio del popolo, e quindi che hanno usato le loro tradizioni, i loro canti. Violetta Parra percorse in un largo il Cile, raccogliendo i canti tradizionali della sua terra, che è un po' quello che ha fatto Maria Gimbutas. Maria Gimbutas scrive nelle sue memorie, anche in Le Dee Viventi, racconta che iniziò proprio Maria Gimbutas, l'archeologa, no? Che ha scoperto le società neolitiche e matriarcali, che girò per tutta l'Europa orientale, cominciando dalla Lettonia, lei era lettone. No, dalla Lituania, comunque una delle tre province baltiche, raccogliendo i canti popolari. E da lì lei si accorse che nei canti popolari c'era ancora la memoria della dea, perché nei canti popolari si parlava della dea. C'erano questi nomi dell'Europa dell'Est che ricordavano la dea, no? Baba Yaga piuttosto che altri. Stessa cosa ha fatto Violetta Parra. Prima ha percorso tutte le Ande raccogliendo i canti tradizionali della sua gente, poi ha cominciato a comporne di nuovi, ma sicuramente, per esempio, questo lo conoscete di sicuro. Rum, rum, se fue pal norte, non se quando vendrá, vendrá para il cumpleaños de nuestra soledad. Ay, questa è una delle canzoni, per esempio, di Violetta Parra, che sono famosissime, abbastanza, insomma. Quindi, libri per donne contenenti solo opere latinoamericane. Le scuole serali missionarie, tra virgolette, in Messico, riscattarono la cultura latinoamericana e dimostrarono che la gente nativa non era per niente stupida e incapace, come si pensava, come era il... Gli europei avevano questa arroganza, no? Questo paternalismo nei confronti dei campesinos, li consideravano la stregua di bestie. Invece lei e Frida e tutti gli altri che lottavano per questo si resero conto che invece erano estremamente creativi, solo avevano un modo diverso di creare. Anzi, è creativa, geniale, brillante la gente nativa. Ai maestri e maestre rurales lei diceva: descrivi la tua America, non un surrogato dell'Europa. Quando lei formava Mistral, la Gabriela Mistral formava gli insegnanti. Purtroppo anche in Messico, alla fine dal Messico dovette andarsene perché fu fatta, divenne bersaglio di invidia e veleno, perché dicevano che andava a portare via il lavoro alle maestre locali, che oltretutto era straniera, un po' quello che successe anche a Marie Curie, che era considerata una straniera in Francia. Questo è, diciamo, è il rovescio della medaglia, di doversene andare dalla propria patria, che lì dove vai ci sono quelli che ti accolgono e quelli che invece ti remano contro. E quindi dovete andarsene anche da lì. Se ne andò prima della scadenza del mandato, nonostante l'enorme lavoro che fece, e soffrì molto per il tradimento del Messico, perché lei amava molto il Messico. E perché era il primo luogo dove era stata data la possibilità di teorizzare il suo metodo pedagogico, e per la seconda volta si sentì cacciata. Ma prima di andarsene scrisse che l'America Latina è una e che dovrebbe essere senza frontiere, perché è abitata tutta da meticci e meticce, la stessa cosa che Che Guevara scrisse decenni dopo. Gabriela dice che la maestra non deve mai aiutare il bambino, mi risuona, a fare ciò che può fare da solo. Stesse parole, incredibile. I maestri e i genitori disprezzano e combattono l'immaginazione dei bambini, perché pensano che sia una perdita di tempo. A me da bambina mi diceva: ma tu hai troppa fantasia, come se fosse male, no? E quando gli si dice ai genitori che la fantasia è la base delle visioni e delle idee, essi non ci credono. È chiaro che ogni visione ed ogni idea nasce con un'immagine, quindi immaginazione. Cosa significa? Significa creare un'immagine che poi via via viene sempre più elaborata fino a che non si densifica e dall'idea diventa realtà. Perciò senza immaginazione non esisterebbe nulla. Io qui ho riportato una poesia di Gabriela Mistral, Niño Indio. Se avete voglia ve la leggo, però ve la leggo in spagnolo, perché tradotta in italiano non dice nulla. Ve la leggo in spagnolo, chiudete gli occhi e lasciate semplicemente che arrivi il suono, senza preoccuparvi del significato. Niño indio, niño significa bambino. Niño indio, si está scansado, tú te acuestas sobre la tierra, y lo mismo si está salendo. Hijo mío, juega con ella. Si oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo, y no sosiega. Rueda y rueda se oyen los ríos, en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva, se oyen sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas, donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta. Y tan cerca y tan lejos, como el que huye y que regresa, todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena, y lleva vivos y lleva muertos, el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo. Pecho a pecho, ponte con ella. Y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo, que me tenía y que me entrega. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Io sento che è una preghiera sciamanica. Le ultime due frasi, quella madre che stava rotta, tu la vedrai tornare intera, quel tambor indio della terra. L'America ispanofona, unificata dalla lingua e dal dolore, dal dolore della colonizzazione, chiaramente. 40 anni prima di Che Guevara, un bel po', eh? E nella sua pedagogia c'è scritto. Perché questo è il tambor indio, è il tamburo sciamanico, che suona alla terra. Poi lei dice, e questo l'ho preso dal mio libro, dove parlo di lei, mi risultò sempre difficile far comprendere alle donne che potevano pretendere emancipazione e indipendenza senza rinunciare alla loro femminilità, alla maternità e ad avere una casa. Questa una cosa per la quale fu molto criticata Gabriela Mistral, perché lei parlava tanto della maternità nelle sue opere. Quindi le femministe, le prime militanti, quelle dure e pure, che invece rifiutavano la maternità come se fosse uno sminuire la donna, ovviamente la colpevolizzavano tantissimo. Questo per esempio è successo anche forma forse meno pregiata, ma con Marion Zimmer Bradley, se la conoscete, quella che ha scritto il ciclo delle Nevi di Avalon e tutto il ciclo di Darkover. Anche lei è stata presa d'assalto dalle femministe, perché lei nei suoi cicli fantasy, che in realtà non sono per niente fantasy, perché sono romanzi come al solito, nel ciclo di Darkover, per esempio, lei ha creato in questo pianeta che si chiama Darkover, che è un pianeta in una galassia lontana, ha creato una cosa che si chiama la società delle libere amazzoni, dove confluivano tutte le donne che non volevano sottostare a matrimoni gestiti dalle famiglie, e queste donne venivano accolte veniva dato asilo in questa società delle libere amazzoni, dove loro potevano guadagnarsi da vivere con i loro talenti, e imparavano a combattere per difendersi, oppure imparavano la medicina, le erbe, a fare le levatrici. E le femministe di allora accusarono la Bradley che nella società delle libere amazzoni in cui loro si identificavano, alcune facevano le levatrici, e questa non era considerata una cosa femminista, perché non doveva essere neanche considerato l'idea di fare dei figli, no? Mentre Marion Zimmer Bradley, secondo me, parte il fatto che il suo ciclo di Darkover è veramente, ve lo consiglio perché è bellissima, affascinante. Non si chiama da Darkover. Ne ho altri, Tu avrai il ciclo di Avalon. Sì. Il ciclo di Avalon sono 6 romanzi, mentre Darkover credo che siano una ventina. È molto più. Perché è stato spacciato per fantascienza, mentre in realtà lei era comunque un esoterista, la Marion Zimmer Bradley, per cui ci ha ficcato dentro un sacco di cose su. Che c'è Cassandra, io ho letto, non credo che sia nella serie di Avalon, e no, infatti. Come si chiama? La Torcia. Sì. Anche quello sì. Parla tutta della vita di Cassandra, da parlare di Amazzo, sì. Cioè è proprio interessante. Sì, sì, sì, sì. No, infatti era una grandissima, che come al solito è stata sminuita, lei come Gina Howell, quella dei figli della terra di cui abbiamo parlato, come Mary Poppins, cioè tutte quante queste grandi autrici che parlavano di esoterismo sono state classificate come romanzi per bambini, sì. Come fantascienza e fantasy. Quanto in realtà secondo me hanno reso la portata di tutti degli argomenti, cioè per esempio io Marion per Zimmer Bradley la prima volta, e poi non l'ho più sentita fino a un paio d'anni fa, l'ho letta da bambina, come romanzo per bambini, sì. Io mi ricordavo questo romanzo che si intitolava Spirito di Luce, cioè che poi vent'anni sì. Dopo cioè. Sì, perché non sono per niente semplici, cioè ci sono dei passaggi che veramente, cioè, leggendo il ciclo di Darkover, ci sono delle, cioè in questo mondo che si chiama Darkover, ci sono delle pietre che vengono scavate nella terra, che chiamano pietre matrici, che sono dei potenziatori della mente, e quindi loro apprendono tutta una tecnica delle matrici, diventano tecnici e tecniche delle matrici, perché usano queste pietre per potenziare la mente, quindi imparano a teletrasportarsi, imparano a fare viaggi astrali, quindi sono tutte tecniche che esistono effettivamente in ambito spirituale, occulto, esoterico, e lei le passa in forma di romanzo dicendo che sono queste pietre matrici che in realtà amplificano i poteri, un po' come la, come si chiama quello di X-Men, sai, le mani, non so se avete visto il film X-Men, i mutanti, il capo dei mutanti che mette le mani su questo aggeggio che serve per collegarsi con tutti i mutanti nel mondo. Comunque nella fantascienza ci sono sempre dei messaggi e nei romanzi della Bradley ci sono pagine che veramente ti sembra di leggere dei trattati di psicodinamica piuttosto che di tecniche di potenziamento delle tecniche mentali, perché sono difficili. Io che ci sono da 30 anni in questa roba, ogni tanto devo rileggere 2 o 3 volte, perché insegna come meditare, come fare viaggi astrali in forma di romanzo. Quindi tornando a Bomba, siccome lei parlava nelle sue, se torniamo al Mistral, parlava tanto di maternità e di bambini nelle sue poesie, fu accusata dalle femministe e dice: per me l'emancipazione non era lasciare la casa, indossare i pantaloni e fare lavori da uomo, ma era un sottile stato dell'anima che porta la donna al risveglio attraverso lo studio e la conoscenza, cioè quello che noi chiamiamo il risveglio della sacra femminilità o femminità o il femminino sacro, o chiamatelo come volete, senza necessità di rinunciare ad essere donne, come è stata la prima parte del femminismo, no? In cui in realtà tutto quello che aveva a che fare con la femminilità, giustamente la prima tappa era quella, era considerato da cancellare. Noi adesso stiamo mettendo insieme le due cose, credo, nel nostro pezzo. Nel 1928 la Francia negò il voto alle donne e Gabriella condannò pubblicamente, era già famosa, in una serie di articoli e discorsi, e disse: i socialisti radicali hanno basato la loro campagna elettorale sull'uguaglianza sessuale e sono andati al governo grazie a questo, e ora hanno paura di perdere l'attenzione della stampa, quindi lo passano in secondo piano. Quindi inizialmente hanno preso i voti perché hanno promesso il voto alle donne, dopodiché una volta presi i voti se lo sono dimenticato completamente. 21 anni dopo in Cile si approva il suffragio alle donne. E lei dice, ancora non le va bene, perché dice che il voto alle donne avrebbero dovuto averlo da sempre, non come una concessione da parte degli uomini. E che oltre ad andare a votare, le donne avrebbero dovuto candidarsi, se no non serviva niente andare a votare un uomo. Dov'era la scelta, no? Quindi lei dice: dovete candidarvi, donne. Se votiamo solo per gli uomini, continueremo a essere segregate, dice lei. Le donne, lei dice, completeranno gli uomini nella politica apportando ciò che manca, cioè l'economia. Lei è convinta, sostenitrice, come sarà Rosa Luxemburg, che l'economia è peculiare delle donne, perché sono le donne che sanno gestire i beni per tutta la famiglia. Perché le donne partono e arrivano, partono dalla terra e arrivano alla tavola, direttamente. Cioè gli uomini coltivano la terra, ma le donne coltivano la terra e mettono in tavola il cibo, quindi conoscono tutti i passaggi della filiera, come si direbbe oggi, senza saltarne neanche uno. Concretamente, dice lei, le donne lo fanno concretamente senza ingarbugliarsi in teorie e discussioni ideologiche. È molto dura, è molto... Era una grande comunicatrice, parlava a chiunque e dovunque senza paura né imbarazzo, era umile e dimessa, però non si è mai data aria. Lei vestiva semplice, scriveva se stando seduto ovunque con un piano di legno sulle ginocchia, come Virginia Woolf. Non aveva una scrivania. Viene da ridere perché anche io non ho una scrivania, io sto accanto al camino con i piedi sul marmetto del camino col computer. Però il mio marito mi dice: ma perché non ti siedi al tavolo? Non lo so, non mi viene. Sarà l'eredità delle antenate. Quindi in Francia conobbe Marie Curie, scappò dall'Italia fascista, perché ovviamente non risparmiò le parole e quindi dovette scappare, e accusò le carenze della Spagna sotto dittatura, della Spagna già sotto Franco, in una lettera venne pubblicata cioè lei scrisse una lettera privata e dove denunciava tutte queste carenze del regime franchista. Chi ricevette la lettera la diede alle stampe, la tradì, quindi lei trovò la sua lettera pubblicata su un giornale, si trovò di nuovo a dover scappare anche dalla Spagna. Le venne assegnato un vitalizio dal Cile finalmente, tanti anni che era via, e così poté scappare in Brasile, dove divenne console. Divenne console cilena in Brasile. Anche in Italia venne come console, era console cilena in Italia. Cioè dal niente, praticamente dal campo, riuscì a diventare il massimo che si poteva pensare, anche se qualcuno suggerisce in maniera maligna che semplicemente i cileni volevano sbarazzarsi della sua presenza pesante, quindi la mandavano via purché non rompesse le scatole a loro. Penso ci sono tanti altri modi per sbarazzarsi, insomma. Sì, però lei era molto conosciuta, ad ogni modo lei ha sofferto molto del fatto che il Cile, proprio la sua terra, non la ricordo mai. Anche il Nobel fu comunicato ufficialmente in Cile 6 anni dopo che l'aveva preso. Lo sapevano tutto il mondo, in Cile non si sapeva. In Brasile si suicidò Gigi, questo suo figlio adottivo, figlio adottivo, che si suicidò perché lo prendevano in giro i ragazzi della sua... Lui voleva fare il poeta, voleva seguire le orme della zia. La zia, la mamma, non voleva, lo scoraggiò in tutti i modi, perché dicevano: beh, io come vivo cacciata da un posto all'altro con pochi soldi, che nessuno mi vuole, che tutti mi insultano, quindi non voleva assolutamente che, perlomeno questa è la versione ufficiale, che lui seguisse le orme. Morale, lui non se ne vuole andare dalla Spagna, perché in Spagna nel frattempo ha fatto tante amicizie, si sono fermati tanto tempo in Spagna. Quando lei decide di andare via dalla Spagna e di andare in Brasile, lui soffre molto di dovergli, era adolescente, di dover ricominciare da capo le sue amicizie. In Brasile viene preso in giro, perché era di pelle bianca, quindi viene preso in giro, viene preso a sassate dai neri, o il contrario, viene preso a sassate dai bianchi perché aveva carattere, insomma, per una questione razziale, e questo lo getta alla disperazione, per cui si avvelena. Questa è la versione ufficiale. Io non so. Non so che ci siano altre teorie dietro alla morte di Gigi. Sta di fatto che lei ne fu distrutta, però subito dopo le viene dato il Nobel. E questo mi fa pensare a tutte le volte che abbiamo parlato del prezzo da pagare delle donne. Abbiamo parlato, per esempio, di Coco Chanel. Abbiamo parlato di Coco Chanel, no? Che per arrivare dove è arrivata rinuncia all'amore, di Piaf, di De Garda, quante donne hanno dovuto rinunciare ad avere una vita. La Jean Butas, per esempio, è divorziata. Sabina Schierrein era la maffu, vabbè, lo vediamo dopo. Comunque anche lei venne allontanata da Jung, che era sua amante, quindi dovette sposare, fare una specie di matrimonio di facciata, ma finì male, cioè col marito, no? Quindi finì da sola anche lei. È come se tutte queste donne, ne abbiamo parlato fin dalla prima lezione, no? Il pedaggio. Per poter fare qualcosa di buono in questa terza dimensione è una sofferenza atroce, rinunciare agli affetti. E anche lei, oltre ad essere stata da sempre sola, risulta che lei abbia avuto un grande amore in gioventù, ma che lui era già promesso a un'altra e quindi non si poterono sposare. Alcuni dicono che fosse il vero padre di Gingin, che Gingin fosse suo figlio, e che lei lo ebbe con questo uomo, ovviamente impossibile dichiarare questa cosa. Poi, con il tempo, fu detto, lei ancora oggi ufficialmente viene definita omosessuale, la Mistral, perché terminò, si circondò sempre di donne, non ebbe mai più relazioni con uomini e terminò i suoi giorni con una sua, secondo me era una discepola, cioè io nel rapporto tra Doris Dana, che fu l'intellettuale americana che la ospitò nella sua casa, che la curò quando era malata, che pubblicò gli ultimi suoi libri, era molto più giovane di lei. Nel rapporto tra Doris Dana e Gabriela Mistral io rivedo il rapporto tra il De Garda di Bingen e Richard von Stade, la sua alunna prediletta, che lei amava tantissimo, che considerava sua figlia e che poi fu allontanato da lei. Io sinceramente non sento che fosse omosessuale, ma se anche fosse, chi se ne frega, perché voglio dire, non c'entra, come è totalmente influente. Lei scrisse delle lettere che parlavano d'amore a questa Doris Dana, ma non possiamo sapere se non fosse magari l'amore tra madre e figlia o tra maestro e discepola. Secondo me è proprio questo il punto, l'amore tra maestro e discepola, come fu tra i De Garda e i Ricardis, che noi non contempliamo proprio nella nostra cultura patriarcale. È contemplato l'amore tra maestro e discepolo, in fin dei conti ne parlava Seneca, tutto l'ellenismo è fondato sull'amore tra maestro e discepolo, che chiamavano pedagogia. Pedagogia vuol dire paidos, è il fanciullo, e ago verbo vuol dire amo. Quindi l'amore del fanciullo che poi si trasformava in pederastia, cioè è la versione fisica dell'amore, perché sempre paidos, fanciullo, erotao è l'amore fisico, da cui viene poi erotismo. Quindi tra gli uomini è considerato ed è perfettamente normale che ci sia questo amore tra discepolo e maestro fin dai tempi della cultura ellenica, dell'antica Grecia. Tra donne non è considerato. Ecco, quindi tutto quello che Gabriela ha scritto a Doris è considerato omosessualità. Secondo me invece è proprio questa forma di amore tra la maestra e l'allieva, è la trasmissione del sapere che si... l'abbiamo letto prima, l'amore, com'era quella frase? L'amore che non è attaccamento, no? Il trasmettere attraverso l'amore l'insegnamento e non attraverso la nozione o il dogma. Che mi è venuta, perché su tutte e tre, cioè, o meglio, io mi ero pensata a fare una domanda, io ero immaginata che avrei fatto alla Spielrein una domanda sul... lei parla, anzi, io ho ascoltato per prima la tua lettura delle annate e a me aveva colpito tanto questa cosa della descrizione del suo rapporto con Jung, dove diceva proprio, cioè parlava di questa trasmissione della memoria, no? E, attraverso il rapporto sessuale, però in qualche modo secondo me è una forma di amore, cioè quel sì. Non era solo l'atto, ma non è un amore emozionale, non è come lo intendiamo noi, non è emozione, è come se fosse qualcosa che va addirittura al di là, perché l'emozione implica sempre una forma di possesso, è attaccamento, gelosia, esattamente. È alchimia, in realtà, esatto. Amore è alchimia, amore è cioè che in realtà è una forma di amore, ma talmente sì. Elevata sì. Che, e mi sono resa conto prima mentre parlavi che in realtà a quanto pare sia la mestra che la Montessori hanno tutto lo stesso tipo, no? Di, sì. Cioè nel senso alla fine loro non si sono potute attaccare a uno. Esatto. E anche poi esatto, tutte e tre. Sì. Che poi. Tutte quante volendo, no? Le antenate alla fine, più o meno quelle che abbiamo invocato, di grandi storie di tutta una vita, io non me ne ricordo. E più che prezzo da pagare, secondo me è semplicemente che quando elevi quella coscienza, siccome è una mia domanda personale, no? Da tanto tempo, probabilmente a un livello così elevato di coscienza, la scelta della coppia tradizionale non ha più neanche senso. Cioè, poi può capitare, però tendenzialmente non so se è un prezzo da pagare o semplicemente che la coppia tradizionale è una visione patriarcale, è una vecchia visione. Un contratto. E in realtà, se noi vogliamo stare insieme a una persona non per attaccamento, ma perché amiamo quella persona e ci piace frequentarla, la coppia è completamente libera. E quindi libera significa anche che magari a un certo punto si esaurisce e ognuno va per la sua strada. Mm. Sì. Sì, sicuramente, il che poi anche per quanto riguarda i figli, perché la Mistral perse il figlio adottivo. Mm. Per cui non soltanto nel caso dei compagni, ma anche nel caso dei figli. Sì, sicuramente arrivare ad un attaccamento magari in maniera drammatica, anche perché forse la prima reazione è quella della sofferenza. Poi, però è effettivamente strano che poco dopo che Gingin si suicidò, le fu annunciato che aveva avuto un nome. La stessa Marie Curie perse il marito, Perse il marito giovanissima, lei è inquagliata, perché lei amava moltissimo Pierre, che morì di un incidente. Ma sto pensando a Beatrix Potter, per esempio. Beatrix Potter, quella che noi la conosciamo come quella che disegna Peter Rabbit, i coniglietti, i libretti per bambini, ma in realtà fu un'ambientalista Beatrix Potter, perché comprò tantissimi ettari di terreno nei Lake District in Inghilterra per salvarli dalla rottizzazione, dall'industrializzazione. Anche lei perse il suo primo amore, che era il suo editore. Cioè tantissime sono passate da questa cosa qui. Sì, probabilmente da lì si arriva a un attaccamento. Cioè, comunque... Avendone la dualità, purtroppo non riusciamo ad arrivarci senza dolore. Cioè, anche nella mia esperienza, il mio grosso passaggio che è stato legato alla malattia è stato proprio la lesione del non attaccamento. Che è... anche al corpo. Non attaccamento al corpo. Cioè, te lo possono togliere, ma tu rimani tu, anche senza il tuo corpo. Sì, sì, indubbiamente. La grande lezione. Dunque, lei aiutò gli esuli intellettuali spagnoli con i suoi soldi, aiutava e usava il suo carisma per aiutare gli intellettuali spagnoli a scappare dalla Spagna franchista. Morì a 68 anni in un ospedale di New York, dove era rappresentante del Cile alle Nazioni Unite, quindi arrivò alle massime carriere. Lasciò i diritti dei suoi libri ai bambini poveri di Montegrande, ma gli editori non glieli fecero mai regalare questi libri, rimasero sempre nelle casse degli editori. Questa è una cosa che nei documentari e nella letteratura ufficiale Gabriella Mistral non viene mai detta, che non arrivò neanche un soldo di quelli che aveva destinato ai bambini. Questa è veramente una porcheria, perché i suoi libri sono comunque conosciuti e venduti perlomeno in tutta l'America Latina, quindi i soldi avrebbero dovuto andare ai bambini, invece se li sono tenuti gli editori. Ancora oggi Gabriela viene occultata la parte più sovversiva, perché il Cile non vuole che l'ordine cattolico cileno sia destabilizzato. L'uniformità e l'omogeneità piattente, no, dei governi. Lei incitava la mobilitazione sociale e la ribellione, era veramente una guerrigliera, ribellione all'ipocrisia della classe sociale dominante cilena che non era nativa, perché era europea. Quindi ancora oggi viene edulcorata la sua storia e ricordata come quella che scriveva poesie per i bambini. Ne abbiamo parlato all'inizio. Lo Stato cileno si protegge così, sminuendo questa figura di donna sovversiva. Quindi l'hanno spedita in giro per tutto il mondo pur di non averla lì. Lei non ha mai separato la sua arte dal contesto sociale e politico. La sua poesia era politica, assolutamente. Lei era una combattente, era una statista, era una guerrigliera. L'arte è una voce politica, dice lei. Era una donna politicamente scorretta, una donna intelligente, non sposata né madre, riconosciuta internazionalmente con carriera politica, quindi creava imbarazzo al governo cileno, che non poteva ignorarla, perché ai tempi in cui prese il Nobel, per un po' di tempo era conosciuta in tutto il mondo, ma non voleva darle voce. Consideravo l'educazione, dice lei, l'azione di insegnare alla mia gente a dare il meglio di sé e ad essere felice creando abbondanza e soddisfazione nella sua tradizione nativa, non a memorizzare nozioni di culture distanti anni luce dalla loro. Ero assolutamente convinta che le radici andassero preservate, riconosciute e onorate. Le mie poesie erano filastrocche create coi suoni della terra e dell'idioma della mia gente. Avete sentito prima come era musicale, quasi come se non importasse. Cioè, io capisco quello che leggo perché parlo lo spagnolo, immagino anche tu. Non era importante quello che diceva, era importante il suono, no? Questa sensazione di... Si sentiva davvero il tutun tutun, il battito del tamburo, che poi è il battito del cuore, no? Quindi le filastrocche create coi suoni della terra, con l'idioma della mia gente, dei bambini del campo. Dare il nome alle cose come se le si vedesse per la prima volta. Questa è l'arte dei mistici e dei poeti primitivi. È questo il segreto della creazione, poiché dando nome alle cose si infonde loro vita. Sciamazzo. Ecco, questa è una cosa che mi piace molto di lei. Lei scrive: noi donne formiamo un emisfero umano. Tutte le leggi e i movimenti culturali ci hanno lasciato a lungo nell'ombra. Siamo sempre arrivate al festino del progresso come chi viene invitato con imbarazzo, arriva alla fine e mangia gli avanzi. Un'immagine grandiosa. In poche parole ha descritto esattamente quello che è ancora oggi. Poi, qui si vede la sua parte spirituale profondissima. Mi fa orrore l'idea di tornare a nascere. Intendeva. Quindi anche lei crede nella reincarnazione, ma non voleva rinascere nella dualità. Ho imparato l'amore per il nulla, scrive, quindi un attaccamento totale. L'amore del morire, che bello! L'amore del morire, quindi onorare la dea dell'Ovest nel suo aspetto di anziana, perché è chiaro che per lei morire non è la fine, è solo il passaggio al prossimo livello. La voglia di non tornare mai più qui, la volontà di restare mano nella mano con la terra. È grande. Pochi pugni di Terrandina lei si portava presso nella scatoletta in valigia. Lei aveva ribattezzato la morte la contramadre, ossia l'altra madre. Ditemi voi se non è cosciente del passaggio della porta dell'ovest, come l'abbiamo chiamato, no? Il passaggio da questa dimensione alla prossima, perché la contramadre da fare dalla vita alla sì, no? Che poi è nascita dall'altra parte. Sì, sì. E voglio che le mie spoglie fossero riportate a Monte Grande nella mia amata Valle dell'Elchi. Valle dell'Elchi. Ecco, terminiamo Mistral. Sabina Spieran c'è effettivamente molto poco, perché non si sa molto, quel poco che c'è non è in italiano, per cui è anche difficile dare materiali. Siete stanche? Volete che interrompiamo? Ce la fate? Allora, Sabina Spieran parte anche lei dal gradino più basso, cioè mentre la Mistral era povera, campesina, col rostro d'indigena, povera, eccetera, la Schirrein aveva una diagnosi di schizofrenia e isteria, quindi lei finisce nella clinica di Jung perché i suoi genitori la consideravano pazza. In realtà aveva un mamma rabbino, l'abbiamo visto prima, quindi lei aveva avuto un'infarinatura di alchimia e di esoterismo ed era una medium. Lei aveva percezioni, aveva intuizioni, che però, siccome la madre era un medico, ma era un medico razionalista, scientista, non accettava assolutamente questa parte, diciamo, esoterica della figlia. Quindi la ricoverarono nella clinica di Jung, perché Jung stava cominciando con questo suo metodo sperimentale della psichiatria dell'occulto, non mi ricordo esattamente, però diversamente da Freud, lui... Jung accoglieva anche la parte esoterica e occulta, mentre Freud leggeva solo in forma di simbologia sessuale. Jung invece credeva anche nelle presenze occulte, nelle forze dell'aldilà, eccetera, eccetera. E lei fu la sua prima paziente. Quindi fu ricoverata a 19 anni in una clinica svizzera con la diagnosi di isteria psicotica. L'isteria era considerata una malattia delle donne in quell'epoca. Isteros significa utero, da cui isterectomia anche. Quindi la rimozione dell'utero, e veniva curata con l'elettroshock, con i bagni gelati, con l'ipnosi, quando andava bene. Quando invece la famiglia non poteva permettersi le cure, con violenza e umiliazione. Scoprì lei che l'isteria veniva da pulsioni sessuali represse, lo scoprì lei, non Freud. Perché lei, autoanalizzandosi, si rese conto che nell'infanzia le era stato impedito di riconoscere le sue pulsioni sessuali, o meglio, le era stato insegnato a deviarle, a dirottarle e quindi a farle ammalare. Lei scrive: nella più tenera infanzia abbiamo pulsioni sessuali e ci viene violentemente insegnato che ciò è peccato e va soppresso. Ma le pulsioni sessuali provengono dalla stessa area del corpo dove risiede la pulsione alla sopravvivenza stessa e alla creatività, perché sta nelle sue venali, nel primo chakra. Quindi accompagnano queste pulsioni sessuali ogni essere vivente in ogni momento della sua esistenza, perché sono collegate alla stessa sopravvivenza. Fa parte della natura e della vita. Infatti lei guarì in un solo anno perché si rese conto di qual era la causa della sua schizofrenia. E poi si laureò in psichiatria, grazie a Jung che le passava dei libri, perché si rese conto prima e la prese come collaboratrice e poi l'aiutò a studiare e laurearsi. Si laureò con una tesi sul suo stesso disturbo, cioè sulla isteria psicotica. Quindi si auto-osservò, fece auto-osservazione e scrisse una tesi osservando se stessa. E a 26 anni fu la seconda donna ammessa nella società di psicoanalisi di Vienna. Freud le passava alle sue pazienti schizofreniche, perché lei le comprendeva meglio di lui in quanto lei ne aveva sofferto. E lei si accorse che il linguaggio delle schizofreniche era in realtà memoria di un linguaggio molto più antico, secondo me il linguaggio dei clan, le memorie ancestrali delle società neolitiche matriarcali, fatto di simboli, un linguaggio arcaico che riaffiorava. E lei dice: io lo riconoscevo nelle loro apparenti farneticazioni, riconoscevo i simboli dell'inconscio, la fame d'amore, la paura di essere giudicate e il collegamento con gli altri piani di esistenza, perché lei stessa era una medium. I suoni e i concetti simbolici dell'epoca neolitica matrifocale, questo ce l'ho aggiunto io. Le donne si aprivano come si fidavano, perché lei era una donna, quindi si aprivano, si confidavano, mi permettevano di aiutarle e contemporaneamente di studiare e scrivere la mia tesi. Quindi un'altra volta empirismo. Empirismo significa osservazione, non teoria ma pratica. Osservazione, quindi elaborazione di un metodo, anche se lei poi non ha mai elaborato fortemente, dall'osservazione. Ecco, la cosa più importante che lei ha elaborato è stata la morte come atto creativo, e siamo di nuovo alla dea nel sospetto di anziana Porta del Logos, che è la figura, bene o male, la figura della dea anziana, che è stata rinnegata totalmente dalla società patriarcale, è la cosa più importante che hanno riscoperto tutte le grandi donne, il rapporto con la dea anziana, quindi la possibilità di ritornare. La morte come atto creativo che cosa significa? E la memoria della dea dell'Ovest è la distruzione che dà origine all'esistenza, è il seme che si apre e muore per dare origine alla pianta. Solo dalla morte della vecchia forma può nascere una nuova. E lei teorizzò questo, e Freud e Jung, tutta la sua teoria sulla morte la prese da lei. E Jung tutta la sua psicologia dell'occulto la prese da lei. Fu lei la prima a ridimensionare completamente l'idea di morte. Perché? Perché lei la vedeva come qualcosa di sacro, quindi perché le si risvegliava la memoria dell'antica dea anziana, della dea avvoltoio, che abbiamo visto, la dea nel sospetto di anziana. Poi sviluppò l'arte della guarigione in maniera empatica, che è una cosa tipicamente sciamanica, cioè la comprensione intuitiva del malato, entrare in empatia con la malata, che è un'attitudine sciamanica e che lei un giorno avrebbe praticato con la sua psicoterapia nei confronti dei bambini. È così che lei arriva a curare i bambini, perché entra in empatia con loro, si rende conto di qual è la causa psicologica del loro disturbo e riesce a curarli. Ebbe una relazione clandestina con Jung, ma fu la sua ispiratrice. Per lui la tradì e scelse la famiglia borghese, quindi lei dovette sposarsi con un ebreo russo che un anno dopo tornò in Russia, e lei rimase da sola e cominciò un pellegrinaggio tra Svizzera, Germania e Austria senza denaro, tramite il poco che la famiglia le mandava. Però in quel periodo, osservando la sua bambina piccola, lei praticamente documentando le sue lettere che mandava Jung, perché rimasero in corrispondenza i due, mentre Jung elaborava la sua psicologia dell'occulto, lei scriveva nelle lettere tutta la sua psicopatologia infantile. Ed è in questo modo, osservando la figlia, anche per il fatto che siccome non lavorava, stava tutto il giorno con la bambina, o lavorava poco comunque, ha potuto osservarla ampiamente e rendersi conto di tante cose. Quindi documentava lo sviluppo della bambina ed elaborò il suo metodo psichiatrico. Non lo pubblicò perché non era cosciente di ciò che stava facendo, lo condivideva con Jung nelle lettere che poi sono state ritrovate nel 1977 nascoste in un cassettone in Svizzera, per puro caso. E scoprì anche che la musica aiutava nell'educazione dei bambini e che i bambini educati in modo libero erano naturalmente collaborativi e armoniosi. Le stesse parole di Gabriela Mistral, di Maria Montessori e di Maria Leventre anche. Montessori, e sì, e anche di Maria Leventre, quella del piccolo coro dell'Antoniano. Anche lei dice: la musica è la voce che unisce tutti i bambini del diverso. Se litigano tra di loro, lei che cosa faceva quando litigava? Li metteva a cantare insieme. E immediatamente smettevano di litigare. Bambini liberi e sani, dice, sviluppano sì da subito la innata tendenza a comunicare e a relazionarsi con gli altri in modo armonioso. Compresi, dice, che ciò che permette alla madre di decodificare i bisogni e il linguaggio del neonato è il rapporto di empatia. La madre sa cosa serve a suo figlio senza bisogno che gli parli, perché esiste un sistema di comunicazione sottile che non richiede parole. E qui entriamo in quello che diceva prima, le mamme, no? L'intuito, l'istinto delle mamme. Lei lo chiama empatia, ma è la stessa cosa che diceva prima Maria Montessori. Lei osservava la sua bambina e scriveva le osservazioni, creando la psichiatria e la psicanalisi infantile. Poi venne la rivoluzione russa e lei tornò in Russia perché pensava, credeva nella rivoluzione, pensava di poter aiutare la sua patria, perché cercavano tecnici, cercavano scienziati, cercavano medici, quindi andò. E fu accolta nella società di psicoanalisi russa e fondò l'asilo bianco a Mosca insieme a un'altra psicologa. Pubblicò un saggio psicoanalitico sui disturbi dell'infanzia, ma poi arrivò il comunismo, lo brutto, che sosteneva che la psicoanalisi è una cosa da borghesi e quindi chiuse l'asilo bianco. E chiuse l'asilo. Lei tornò a Rostov, nella sua città natale, e cominciò a lavorare clandestinamente. Ma non è contenta perché lei diceva: io non ho motivo di vivere se non posso lavorare. Quindi, quando poi arrivavano i nazisti, lei si consegnò, secondo me, perché non le piaceva lavorare clandestinamente, non poteva fare. Ormai quello che doveva fare l'aveva fatto, aveva lasciato le sue lettere a Jung, in qualche modo poi abbiamo scoperto la sua figura e soprattutto, secondo me, lei ispirò il libro rosso, il Liber Novus, a Jung, il libro rosso, che è un trattato di esoterismo pure in forma di psicologia o di psicologia in forma di esoterismo. Il libro rosso di Jung lo ispirò a lei. Quindi secondo me lei capì quello che doveva fare, lo doveva fare il Senato. Io ho terminato. Ma la parte sulla sessualità sacra, diciamo, da come è arrivata? Come ci è arrivata? Io ci sono, è una mia comunicazione quella. Okay. Cioè, lei non lo dice da nessuna parte, ma io lo immagino perché lei, grazie al rapporto sessuale con lui, si rese conto che i canali della sessualità erano gli stessi della creatività. Quindi è lì che si accorse che l'isteria e tutte le malattie delle donne arrivavano dalla sessualità repressa, o attraverso il rapporto sessuale con lui. Effettivamente è con la creatività, è la vita, cioè esatto. La parte sessuale è vitale. Sì. E lui, attraverso la relazione sessuale con lei, cominciò a elaborare la psicanalisi dell'occulto. Quindi è come se il loro rapporto sessuale fosse servito in realtà a risvegliare le loro potenzialità, fare in modo che loro potessero dare il massimo. Ovviamente lo scambio lì è una versione romanzata che ho scritto io, ma secondo me, cioè io percepisco questo collegamento, perché se tu guardi i disegni di Hildegard, che li trovi su internet, e guardi i disegni, le visioni di Hildegard disegnate dal monaco, le visioni di Jung disegnate nel suo Liber Novus, se volete lo trovate anche nel mio libro Antenate, la visione delle donne, sono talmente simili che non è impossibile che non ci sia un collegamento. Per cui io ho teorizzato questo legame e ho percepito che c'era quest'altra parte che ovviamente non è stata dichiarata, ma secondo me c'è. Ma d'altronde sappiamo talmente poco della Spierrein che probabilmente la ignoriamo semplicemente, non perché non ci sia, ma perché noi la ignoriamo. Ok, facciamo la nostra meditazione. Così ognuno può fare le sue domande. Volete fare la pipì prima? Sì. Forse il cane deve fare la pipì? Ma forse. Quando la pipì sarà fatto. Come fai? La porti fuori tu, la porto fuori io? Perché non uscire da là? No, forse si può uscire da qui, prova a vedere se è aperta. Usciamo da qui. È chiuso. Chiedi per favore le chiavi alla Letizia, se no chiedile se possiamo così lei fa meno fatica. Abbiamo quasi finito, perché manca poco, però. Vai. Dunque sono arrivate tutte e tre e in realtà anche nello studiare sono proprio talmente sovrapposte che non c'era bisogno che fosse una, fosse l'altra. Dava qualcosa di più. E sto cercando di fare una generale. In realtà la risposta era l'amore, ottenuta quella del non attaccamento, che l'amore è il non attaccamento. E che no, questo non significa che non ci saranno persone che ti accompagneranno, che ci accompagneranno tutta la vita, semplicemente che la nostra forma di amore deve essere quella, deve essere rivolta tra l'altro non a quella persona, no. Cioè noi dobbiamo guardare qualsiasi essere vivente, qualsiasi, in realtà anche qualsiasi oggetto con quella stessa forma di amore. E poi c'è stata come una... È stato come, io credo che quella fosse la morte sua, ma solo perché era una cosa di medico. E mi ha come ricostruito questa parte. È stato proprio, è andata a riscrivere le cellule. Ah, e che bello! L'ha fatto perché diceva che nessuno ci serve. Il non attaccamento è il fatto che noi siamo complete. E quindi che non sono. Non siamo complete e neanche ci serviamo tutte, perché possiamo anche lasciarci andare, no? Che alla fine possiamo perdere il corpo, a un certo punto lo perderemo. Certo. Però quando perdiamo una persona o una relazione è come se si staccasse una parte nostra, se ci teniamo tanto. E il discorso è proprio imparare che non si è staccato proprio niente. Noi abbiamo guadagnato qualcosa. Certo. E quindi ho proprio visto che mi ridisegnava le cellule. E come se in realtà tu non fossi mai stata operata. Come se non fossi mai stata operata. E poi la credo questa sia stata il line, quando ho detto del dono, credo che abbia in un qualche modo riaperto i miei chakra bassi, che sono stati chiusi per tanto tempo, per ovvie ragioni, sia psicologiche che emotive che fisiche. Bene. Sì. Allora aspettiamoci degli ululati nelle prossime. Bene, ottimo. Io vi dico velocemente, a me è stato donato un quaderno con una penna, il dono mi è arrivato subito da parte di Maria Montessori, la quale mi ha detto la vita va scritta continuamente perché l'inchiostro sbiadisce, quindi bisogna continuare a scrivere, riscrivere. Mi ricordava un po' il discorso che mi ha fatto del telaio, che bisogna ritessere. E per cui dice le donne periodicamente ritornano in manifestazione per riscrivere l'inchiostro sbiadito, no? Per ricordare. La vita va riscritta perché se no si sbiadisce. Questo è. Voi? Un ragazzo in telaio. Bellissimo! E così li togliamo di mezzo. Bellissimo! Che si stava tessendo da solo. Sì. Oh, bellissimo. Meraviglia, grazie. Tu? Anch'io ho visto tutte e tre e ho rivolto loro una domanda che era che cosa significa per noi donne essere pienamente noi stesse. Non ho ricevuto una risposta verbale, però ciascuna di loro mi ha portato un dono, ma non solo un piccolo quaderno. Anche a te, allora. Gabriella ha una grande foglia, una foglia molto estesa, molto stava un po' di due mani, e l'altra è quello del corpo. Sabina? Un uovo in pietra, poteva essere la pietra di un mazzo. Sai che si usano degli ioni egg. Mi spiega di spiegare? Sì, sì, certo. Perché sì, è ritornata una pratica che penso che in realtà sia più antica. Io non la conosco tantissimo, però si vendono queste uova che possono essere di varie pietre, possono essere, di solito si usano ossidiana,